4 mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Abbassare! Non tregge più. Abbassare! Non tregge più. Abbassare con le canzoni senza fatti e soluzioni, la castità. Che purtroppo voi non siete arrivati da Marte, Salvini, voi avete governato questo paese per lunghi anni e lei era un dirigente, le ho già detto una volta che signorina, no, Pina Picerno, signorina, le ho già detto un'altra volta, deve dirlo a sua sorella, glielo ripeto stasera, glielo ripeto stasera, perché non è, no, a me basta il nome e il cognome, io non voglio essere chiamato onorevole. Auto blu. Sentire un sindaco di una città come Napoli che dice che Maroni voleva sparare alle donne e ai bambini è una roba idiota e si dovrebbe vergognare solo per aver propalato un'idiozia del genere ai telespettatori che ci stanno guardando. Verità, Salvini. Perché nessuno mai nella vita si... No, ma mi chieda scusa, ha detto una fesseria. È la verità, mai nella Salvini. Vita qualcuno è la verità, il suo ministro dell'interno che vuole premiare praticamente i sindaci che respingono e punire i sindaci che accolgono. È sempre Maroni che prima era ministro. Oggi è presidente della regione Lombardia. Questo sì. Cazzaniga. Non tregge più. Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli, Tripla Causio che passa Tartelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli. Non tregge più. Gianni Brera. Non tregge più. Eh sì, non tregge più. Sono cominciati lentamente dal rientro delle vacanze quei talk show in cui la Pina Picerno si sente dare della signorina e dice a Salvini dia la signorina a tua sorella. Poi Salvini litiga con De Magistris, ci si parla addosso. Basta, no, basta. Tre giorni che sono tornato e basta queste cose, basta. Lamentare. Non tregge più. Abbassare. Poi lo diciamo sempre basta e tra tre giorni sarà tutto cronicizzato, saremo anestetizzati e ce li rivedremo. Cioè no, io non li vedrò, ma insomma, ce li... Disponibile al confronto. Ce li propineranno così, insomma. Alternativo. Non te regge più. Non te regge più. Hai lo stress. Hai lo stress. Freud del sess. È tutto un chess. È tutto un chess. Se quest'estate andrà. Grande male, Rino Gaetano, un uomo che aveva capito tutto 30 anni fa. Che ci ruba l'argenteria. Basta! Basta! Ah, il nostro Oscarino Giannino che ieri ha compiuto. Era il compleanno, non so quanti anni. Ieri era il compleanno di Oscarino, gli avete fatto gli auguri? Non te regge più. No. Non te regge più, sì, siamo ripartiti ma lentamente l'Italia si rimette in moto e non sto parlando di riprese, ripresine, 0,2%, 0,3%, 0,4%, ma sto parlando di questi programmi. Allora, 349-238-6666, è ripartito anche il nostro programma che qualcuno troverà molto noioso e ripetitivo e va bene. Il numero per i vostri sms, lo ripeto, 349-238-6666. A voi piacciono questi bei dibattitoni in cui Pina Picerno si offende perché le viene dato della signorina da Salvini? Allora, qui c'è Peter Bescapè in regia e c'è il nostro Lorenzo Nespoli in redazione. Ormai le facce anche qui sono cronicizzate sulla stanchezza dopo il terzo giorno e quindi adesso è arrivata la svolta. Da adesso fino a dicembre almeno, le ferie di Natale, vedrò queste belle faccione stanche davanti a me. Vabbè, è così. 6 e 32 minuti. Allora, qui abbiamo il ritorno di due amici, un imprenditore, Chicco Testa. Buongiorno, ben ritrovato Chicco, come stai? Buongiorno, bene. Come bene, sono andate bene. Le vacanze? Tutto a posto? Perché avete le facce stanche? Andate a dormire presto la sera, no? Mannaggia, guarda, non farti dire nulla. Lo sai che siete ultimi in classifica, voi della Juve, sì? No, no, le cose non stanno così. Noi abbiamo deciso di stabilire dei record anche quest'anno e abbiamo iniziato con il primo record della stagione. È vero, è vero. Ma adesso arriveranno gli altri, per esempio il quinto scudetto, no? O per esempio tre partite consecutive con sconfitte. Non l'avete mai fatto? Tre partite, così il record diventa impazzito. Esatto, non l'avete mai fatto. Le prime tre partite con sconfitte. Vedremo. Sarà dura, ma cioè, speriamo che possa accadere. Allora, insieme a Chicco Testa, voglio salutare il nostro amico di Piovono Rane, il nostro grande Giglioli. Buongiorno. Buongiorno da Roma. Da Roma. A Roma. Sì, no. È tornato Marino. Sì, io sono. No, io sì, lui no. Ah, tu sì. Marino? Sì, no, non lo so. Forse oggi. Ieri. Sì, forse oggi è il 2. Oggi è il 2. No, oggi torna domani. Ma un mistero, l'altro giorno non sapevo manco dov'era. Ma nessuno sapeva dove era. No, la cosa è stata quando hanno chiesto un assessore dov'è Marino e lei ha risposto. Lo so, ma non lo posso dire. Ah, sì, certo. Chi? L'assessore Cattoi, forse. Sì, bravo. L'assessore Cattoi. Ma certo, perché l'assessore Cattoi era l'ex portavoce di Ignazio Marino. Molti non sanno questa cosa. Quando era senatore, Ignazio Marino. Sì, la conosco bene. Alessandra Cattoi, era bravissima. Era una portavoce che ha preso in un ospedale, poi l'ha seguita in tutte le sue campagne elettorali. È vero. E poi l'ha fatta assessore. E poi l'ha fatta prima assistente parlamentare, poi assessore, te la dico per tutta. No, è vero, è così, non c'è niente di male, insomma, questo è il curriculum. Beh, adesso mi tocca a me fare quello che dice che c'è qualcosa di male. Sì, no, infatti qualcuno potrebbe aver criticato, altri politici. Secondo me c'è qualcosa di male quando tutta la vita tu dici, con tutto che io stimo Marino complessivamente, però bisogna dire, e tutta la vita dici che tutte le cariche devono andare per merito, poi quando diventi sindaco fai assessore il tuo portavoce. Portavoce, meno male che hai detto portavoce, non portaborse. No, portaborse. Comunque, buongiorno a tutti. Siamo entrati subito così. Abbiamo toccato a piano. Siamo entrati a gamba tesa su Ignazio Marino, chi non lo fa d'altronde ultimamente. Allora, Chicco Testa è tra i cittadini semplici che ha firmato quest'estate sul Corriere della Sera anche una pagina di appoggio a Matteo Renzi, a dire stiamo a fianco al nostro premier. Insomma, sarei contento, Chicco, la ripresa c'è. Hai visto? Ieri avevamo il nostro Alberto Forchielli che ha detto mi sembra più una ripresa per il culo, ma insomma adesso Primo, certo che sono contento perché i dati buoni sono meglio dei dati cattivi. Sì. Chi aveva detto questo, Battaglia? Sì, prima sì. Questione, no? Era catalano. Catalano, non sbagliamo la citazione. Hai ragione. Sono passati un po' di anni. È ultimo in classifica, fatelo. Cioè, cercate di capirlo, dai, su. Senti, Marino sta aspettandolo, per oggi e domani sono previsti temporali. No. E quindi rinfrescamento del clima, no? Sì, me l'ha detto sotto Corona. E lui giustamente aspetta perché fa molto caldo ancora a Roma. Non so com'è la situazione a Milano. Faccia un po' di caldazza, ma ieri c'è stato un temporale. Un po' di caldazza. No, secondo invece, io penso, potremmo inaugurare questa nuova stagione con quello che tu dicevi all'inizio di questa trasmissione, no? Sì. Le battute sono carine, va tutto bene, però smettessimo un po' di parlarci addosso sempre, no? Non succederà. No, da parte tua in generale, perché anch'io sono già pieno d'ansia alla possibilità, diciamo, di tornare a casa la sera, accendere la televisione e sentire 5-6 persone che si strillano addosso. Dico succederà così, mettiti tranquillo. Perché vedi, anche ci sono certi problemi, purtroppo, no? Adesso ce ne sono due grandi, no? La situazione economica e l'immigrazione, no? Sì. I quali certo hanno delle responsabilità nell'azione di governo, no? Nell'azione delle diverse forze politiche, ma sono problemi che comunque permangono a prescindere da chi governa o da chi non governa, no? Accusarci continuamente l'uno con l'altro. Io ho fatto un dibattito con la Santa Anche, Lei dice: tanto Renzi non abolirà l'IMU perché non c'ha i soldi. Io gli ho chiesto, scusi Santo, che se vincete voi le elezioni l'IMU l'abolite o no? E lei dice, sì, l'aboliamo di sicuro. Mi scusi, certo, lei dove li trova i soldi? È Berlusconi. Sono quelle cose di logica minima, no? Ma no, ma che va del dibattito politico, invece, la logica. Sì, si trovassi, sì, però guarda, o questo paese torna a trovare qualche cosa di condiviso, sì, in qualche modo, no? Cioè il ritenere che alcuni problemi ci sono a prescindere e dobbiamo in un qualche modo metterci d'accordo su come risolverli, naturalmente con la giusta e legittima critica da una parte e dall'altra, no? Sì, ma altrimenti dice. Però vogliamo sentirlo veramente addosso. Vogliamo sentirlo Renzi, che così che dice che c'è la ripresa, così vorrei sapere anche da Alessandro Giglioli che ne pensa. Sentite qui Renzi, poi sentiamo anche Forchielli. Renzi. Più 44.000 occupati, meno 143.000 disoccupati. E per chi è abituato a pensare alle cifre, alle statistiche, ai numeri, questi sono soltanto dei numerini, ma in realtà è molto di più. È l'idea che il paese si rimetta in moto. Si rimette in moto, questo per Renzi. Il nostro Forchielli ieri l'aveva invece detto così, Alberto Forchielli. Renzi anche l'altro giorno al Corriere della Sera ha detto l'Italia è in ripresa, l'Italia ce la fa. Tu non ci credi a questo? A lei no. Quella è nata, ma mi sta più di ripresa per il culo. Se ti prende fisicamente è chimica, se ti prende al cuore è amore, se ti prende per il culo è Renzi. Vabbè, Forchielli è uno così, si sa, Giglioli, non è che ha un po' il giudizio urticante un po' su tutti. Beh, tu ci credi? Non è che ha usato il giro di parole. Non è uno. No, allora, questa roba dei numeri è diventata abbastanza stancante negli ultimi mesi, perché ogni tre giorni escono dei numeri spesso in contraddizione fra di loro. Il governo, come si sa, qualche settimana fa ne ha dati di sbagliati e poi ho dovuto chiedere scusa. Questi sono dell'Istat, si spera siano meno sbilenchi. So che Renzi già ieri ha dato degli altri numeri sbilenchi, perché ha dato dei numeri sull'Expo che non coincidevano, che erano circa il doppio sui visitatori dell'Expo, sì, il doppio di quelli dello stesso sito dell'Expo, quindi ne nasce una sfiducia piuttosto fondata sulla diffusione di questi numeri. Sui quali ormai si svolge tutta la battaglia politica. E poi ogni tre settimane un numero diverso. Io credo che rischiamo un po' l'effetto Spagna, per capirci, no? Ci sono dei numeri continuamente positivi e la gente, ma il percepito, chiamiamolo così, dalla maggior parte delle persone è che le cose non siano migliorate rispetto a due o tre anni fa, e questo per una serie di cose che adesso a quest'ora non so, per esempio, l'occupazione, se c'è la sostituzione dei lavori normali con dei mini jobs, numericamente l'occupazione aumenta. Sì, però dal punto di vista del percepito delle persone non c'è certo un miglioramento della qualità della vita. Detto questo, io non credo che sia il caso, come dire, di stare qua a ammazzarsene tre giorni, anche ogni tre settimane, ogni tre giorni. Con i numeri. E poi era impressionante su il dibattito online. Sembrava che la gente dava i numeri. No, però io non ho capito una cosa. Vediamo un po'. Io vorrei capire da perché se tu vedi le tendenze non sono ancora definite la tendenza. Però non vorrei capire da Chicco Testa, cioè da Chicco, perché hai firmato questa pagina d'appoggio a Renzi? Cioè, perché credere in Renzi? È interessante capire. No, scusa, per un motivo molto semplice. Mi è arrivata una mail da parte di un amico, una persona di cui mi fido, mi dice: guarda, stiamo facendo questa iniziativa, sì, eccetera eccetera, ho detto va bene, io ci sto molto volentieri, no? Ma l'ho firmata perché intanto è un'iniziativa abbastanza inedita, no? Qualcuno ha detto: ah, ma voi appoggiate il potere come in Corea, eccetera eccetera. Non è vero, non è così, ci sarà anche la libertà di dire che il governo forse sta facendo un po' meglio di quanto spesso si legge e si dice. Non è un'associazione, non è un partito, non è niente. Credo che io non conosco quasi nessuno, fra l'altro, di coloro che hanno firmato, ne conosco 4-5, no? Secondo, perché in effetti io penso che con tutti i difetti, i problemi, la situazione, io penso che la situazione italiana sia una situazione veramente incancrenita, molto difficile. Cioè, pensi che Renzi possa essere la persona? Però ha fatto una serie di cose che finalmente si dovevano fare, no? e sono terrorizzato. Per esempio? Quella più... Quell'elenco che c'è lì, dagli 80 euro, il job act, la pubblica amministrazione, il divorzio breve, le auto blu, tante cose. Sono terrorizzato dall'idea che l'obiettivo principale di questo paese a tornare a votare il prima possibile, per che cosa? Sì. Per trovarsi il giorno dopo con un Parlamento iperfrazionato. No? Che c'è, Giglioli? Perché non ti sta bene questo discorso? No, fermo restando alla base, l'importante di chiunque di firmare qualsiasi cosa. L'effetto di quella lettera è stato, secondo me, un autogol comunicativo molto forte, perché posso finire? Sì, no, ma ti pregherei però di distinguere tra quello che ci diciamo tra di noi. Io ho ricevuto 70 mail di appoggio per questo. Vediamo in che cosa Giglioli è stato un autogol, secondo te? Ma perché si è visto tutto l'establishment italiano, l'elite, l'1%, il 3%, la di cui Chicco Testa fa parte, inutile che ci proviamo per i fondelli. Scusami Giglioli, chi hai visto dell'establishment italiano in quella lettera? Ne conosco, adesso non fammi, per favore, i nomi e i cognomi sono li avete pubblicati voi. No, ma io voglio tutti, no, sono se tutti dici, altri, mi fai un regalo per conosco tutto governo. Allora, se vuoi ti mando una mail oggi con tutto l'elenco delle cariche. Dice Giglioli, è venuto fuori l'immagine del, non so, un certo establishment che appoggia il governo. È politica, economica, soprattutto economica di questo paese, la gente che non ha nessun problema arrivare, non dico a fine mese, ma nemmeno a fine del secolo, che appoggia che in un secolo guadagna quello che una persona normale guadagna in una settimana, guadagna quello che una persona normale guadagna in un secolo, che appoggiano il governo. Dopodiché, allora, visto che hai preso sui contenuti possiamo discutere, sì, se vuoi te lo mando, guarda, io ce ne ho, no, l'aspetto ero al mare, aspetta, fai capire, se no non si capisce. Giglioli, tu quando hai visto questa pagina sei sobbalzato, dice, ecco, vabbè, i ricchi appoggiano Renzi, questo hai pensato? Come di nomi conoscevo diciamo una decina di quelli che c'erano, ho cominciato a googlare tutti gli altri. Sono tutti quella che è la vera casta di questo paese, che non è solo la politica, ma è l'intreccio fra economia e politica, gente che piglia dai 200-300 mila euro in su, 200-300 mila euro in su all'anno, e che non ha la più pallida idea di come vive la gente. Insomma, hai capito, Chicco, la ricchezza. Posso rispondere? Certo. Allora, Giglioli, prendo sul serio le tue parole, non mi piace fare polemica. Io aspetto da te che tu mi dica chi di queste persone prende soldi dalla politica. No, non dalla politica. Ce n'erano alcuni che avevano cariche sotto potere. Tu hai detto la vera casta che vive di intreccio tra economia e politica. Tu sei l'incarnazione prendo io dalla politica, Giglioli? No, nella tuo curriculum sei l'incarnazione politica. No, nel mio curriculum, guarda, io non ho politica. Più io ho massimo rispetto per te, ma voglio dire, no, Giglioli, io non ho incarichi pubblici dal 2007. Niente, io non li ho mai avuti, per esempio. Non c'è niente di male. Scusate, però a un consiglio d'amministrazione. No, io vi devo richiamare all'ordine. Chicco, siamo partiti dicendo no, partiranno quelle trasmissioni in cui ci si parlerà addosso. Cosa stiamo facendo? Giglioli ha rivolto un'accusa che io vorrei che lui ci costagliasse. Non è un'accusa, è un dato di realtà. È un dato di realtà. Ci sarebbe un'accusa se fossi io adesso un giudizio morale sul fatto che ci sono delle persone che fanno questo tipo di carriera. Il dato di realtà è che c'è in Italia 2-3% di fortuna che Giglioli ha visto in qualche modo rappresentati in quell'appello pubblico. Di conoscere i nomi. Va bene, intanto in attesa dei nuovi. Se noi frequentassimo anche persone fuori da questo 3%, ci renderemmo conto della percezione. Fuori da questo 3% è stato probabilmente. Allora, in attesa di questi nomi, devo dare le informazioni sul traffico. In attesa di questi nomi, dai, poi rientriamo. E ora Milan, ma no, saffogo. Ho sentito che a Roma vogliono fare cassa con una tassa sui pullman turistici, ma non incasserebbero di più se mettessero una tassa sui funerali dei mafiosi a piede libero? Cari signori, cominciamo a riflettere. Inghilterra, detta la Gran Bretagna, va bene. Prima ha sfruttato mezzo mondo le colonie, fatto prima lo sfruttamento e ora rifiuto, i poveri disgraziati che non sanno che si devono mangiare. La barcaccia, tutti i prosciolti, e volevo mettere queste telecamere, oh, e volevo mettere queste telecamere. Caro Alino, vuoi un consiglio? Fai il test antialcolico ai tuoi ospiti. Caro signore Milan, si è tornato finalmente, eh? Finite le vacanze. Ma te voglio dire due parole dello sindaco Marino. Senti, abbiamo pensato di trovargli un lavoro. Allora gli abbiamo trovato un lavoro per lui. Lo portiamo a spalare gli scrimenti delle vacche giù la stalla dello compare Brischetto. Che ne dici, eh? Forse lì farà bene? Speriamo. Ciao, ciao. È tornato il nostro Angelino che ha trovato un lavoro per Ignazio Marino. Siamo con Chicco Testa, Alessandro Giglioli, in attesa dei nomi, però parliamo. Vorrei chiedere. Sono pure il mio amico Gado della Gherardesca, bravissima persona, pubblicitario. Vabbè, ecco già, primo nome. Un altro nome. Da un milione al Vabbè, dai, poi gli scusami. No, il primo che mi è venuto in mente. Gli rimanderai questi nomi. Però vorrei capire una cosa, visto che l'altro tema è molto ancora sui giornali, molto presente, l'immigrazione, che è un tema molto, molto più ampio di quello che si può affrontare in un dibattito pubblico, anche con temi e con toni che la politica spesso usa, e cioè un po' qualunquistici. Però c'è questo caso. Ecco, Chicco Testa, Matteo Renzi, un presidente del Consiglio, avrebbe dovuto dire qualcosa? Sono passate 48 ore ormai per questo delitto di palagonia. Quando c'è un familiare, a torto, a ragione, che dice il presidente del Consiglio mi dica qualcosa perché io considero questo governo responsabile in qualche modo, se davvero questo profugo è lui che ha ucciso questa coppia, perché non dice niente? No, proprio come proprio strategia politica, o fa bene a non dire niente? Non ne ho idea. Per quello che conosco Renzi, penso, immagino che troverà il modo, soprattutto nel momento in cui forse le polemiche si saranno un po' acquietate, per rispondere a questa domanda. E la domanda che fa la figlia dei due poveri genitori è una domanda in un qualche modo legittima, forse una domanda che avrebbero fatto tanti di noi, no? Sì. Detto questo, un conto è fare una domanda legittima sulla spinta soprattutto di un'emozione così forte, e un conto è trasformare ancora una volta tutto in polemica politica, spirito di fazione, eccetera eccetera. Sì, questo è vero, cioè il dibattito va avanti per un po' per slogan, un po'. L'ultima è questa, sapete cosa ha fatto? Segnalo Giglioli che io sto in questi giorni invece facendo parte di un gruppo che sta raccogliendo soldi per un'altra cosa, vale a dire per costituire un fondo per la famiglia di quello povero ucraino che è stato ammazzato in un supermercato. Napoli. Questa è un'iniziativa molto meritevole. Spero che questo piaccia di più a Giglioli. Naturalmente ho contattato anche qualche amico benestante che così caccia qualche soldo. Ecco. Ma cioè, hai dato molto testo di quello che gli ho detto. Vabbè, dai, però l'hai un po' accusato di dire la ricchezza fa schifo. Cioè, hai detto non un po'. Ho detto questo. La traduco, cioè dire sì. Siccome siete ricchi, appoggiate Renzi. No, io questo ho detto che l'effetto mediatico di un establishment economico che appoggia il Premier non è bello. Dopodiché, per carità, ognuno può fare quello che gli pare. Pare che io non sono mica per la povertà, ma io sono per la ricchezza. Per la ricchezza, vabbè. La ricchezza fa schifo a chi non ce l'ha, naturalmente, giustamente. Non ricominciamo l'anno così, dopo. Non ricominciamo. Ricominciato il campionato. Notate che ho evitato di dire che Giglioli invece è capolista, salutiamolo, capolista, interista. Vabbè, dopo due giornate. Manco te lo ricordavi. No, abbiamo battuto la tavola. Rubacchiando anche a Carpi. Ma questi sono quello dettagli. Non l'ho visto, ho visto la tavola. Sì, sì, avete rubacchiato. Ma sono dettagli, sono cose che capitano. Non so, Giglioli dovrebbe dire qualcosa, Renzi, su. Insomma, intanto la signora che ha perso, o quando uno perde delle persone, non è un soggetto politico, dice delle cose di istinto e di natura che sono del tutto naturale. Se ammazzassero a me un figlio, un genitore, non è che non sarà in grado di fare allenamenti molto, molto lunghi. E ora ha accusato Renzi, e vabbè, è molto più facile accusare il governo in carica, quale che esso sia, piuttosto che non le complicatissime, su questo perfettamente ragione testa, le complicatissime cause internazionali ed economiche che hanno portato, che stanno portando milioni o centinaia di migliaia di persone ad andare via dalla povertà. Sì, è chiaro che è un pochino più complicata la cosa. Ma è ovvio, prevale sempre l'atteggiamento molto più. Immigrati delinquenti e immigrati, no, abbiamo visto in questi due esempi fatti proprio stamattina, quello che ha ucciso qualcuno e quello che si è sacrificato per qualcun altro. Cioè, non è che gli immigrati sono più buoni o più cattivi degli altri, sono persone che si spostano perché hanno, spesso vengono da guerre, altre volte semplicemente dalla fame, e tra centinaia di migliaia di persone, milioni di persone che si muovono, ci sono. Se io sono lontanissimo dalla mitizzazione dell'immigrato come buono, sì, l'immigrato no, non è più buono né più cattivo di noi, sono altrettanto lontano dalla sfida, probabilmente è un piazzato. Porca mia, cioè, ci sono coglioni trasversali a etnie, orientamenti, generi, visioni politiche e così via. No? Però a proposito di visioni politiche, sicuramente tra gli amici politici di Chicco Testa non ci sono quelli del Movimento 5 Stelle, però c'è del gran movimento nel movimento. Perché due giorni fa Beppe Grillo, un po' in sordina per la verità, non è stato molto trattato sui giornali, sì, da alcuni sì, però secondo me poteva avere più rilevanza, a Brescia ha detto una roba importante sulle ultime elezioni, eccola qui, Noi non eravamo pronti nel 2000, quando siamo andati abbiamo preso il 25%, non eravamo pronti. Non eravamo pronti. Abbiamo incamerato chiunque dentro. Abbiamo incamerato chiunque, non eravamo pronti, ma adesso cambia, Grillo vuole cambiare. Ci sarà un'organizzazione, abbiamo adesso un movimento che sta veramente migliorando. Io ho visto i primi tempi, fino a 2 o 3 anni fa, entravano anche gente che non si sapeva bene cosa. Adesso vedo veramente che entrano professionisti, entrano persone di un certo tipo, persone che possono dare veramente un grande apporto a questo movimento. Continuiamo così che va bene, stappa, crimi. Insomma, che dire, il primo giudizio lo faccio da Chicco Testa, che però sempre non ha mai risparmiato giudizi critici in confronto del Movimento 5 Stelle. In questo caso ti piace questa rivisitazione di Grillo, che ammette, insomma, abbiamo imbarcato un po' chiunque, perché forse insomma è nato tutto senza storia politica, hanno dovuto fare tutto in 448 e... No, ma il problema di Grillo, oltre a questo, sicuramente è un problema perché non si dà movimento, non si dà partito, non si dà struttura che non abbia al proprio interno un'organizzazione e una selezione delle persone, che non abbia dirigenti, non abbia responsabilità chiare e definite. No, questo vale per un partito, per una squadra di calcio, per un giornale, per qualsiasi altra cosa. È il fatto che è la grande confusione di idee che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle. C'è un obiettivo comune che è la casta, no? Genericamente intesa, fatta un po' da tutto, dai giornalisti, da questo, da quell'altro, eccetera, eccetera. Per il resto è un gran guazzabuglio in cui ci sono posizioni liberiste e posizioni stataliste. Posizioni pro-immigrati, posizioni anti-immigrati, posizioni pro-lavoratori, posizioni contro i lavoratori, un po' nordista e un po' sudista. Cioè, sì, vedi un po' di tutto, un guazzabuglio. Io inviterei, chiederei a chiunque di definirmi che cosa vuole il Movimento 5 Stelle in 3-4 campi delle urgenze italiane, l'immigrazione. Sì. Cioè, ma in realtà c'è un programma, i cosiddetti punti, insomma. Ma qual è? Dov'è? Beh, no, so. Ma dai, c'è sui siti quando hanno fatto le elezioni, c'è un programma. Poi è vero che su alcuni temi, per esempio sull'immigrazione, Grillo a volte ha detto delle cose che appaiono più di destra rispetto a quelle di sinistra, a volte è un po' ondivago su alcuni temi. Però il programma c'è. Tu, oppure Giglioli, che se ne intende, un tema su cui il movimento di Grillo ha una posizione. Vediamo, però ho 40 secondi, Giglioli, dimmelo. No, c'è un programma, è online, non è sistematico, è pieno di buchi e i problemi dell'organizzazione e della selezione sono d'accordo con Testa, e lo dicevo anche 3 anni fa beccandomi alcuni insulti dai grillini. Il problema è che i partiti hanno fatto una selezione talmente alla rovescia di personale scadente che loro sono partiti con una non selezione, adesso si stanno rendendo conto che le cose così non vanno. Quanto al programma del Movimento 5 Stelle, ripeto, non è sistematico, ci sono alcune cose molto definite, molto verticali, ad esempio in tema ambientale, sicuramente in tema ambientale, sicuramente in tema di costi della politica e sicuramente in tema di avvicinamento dei cittadini al palazzo, i referendum propositivi, i referendum abrogati, la facilitazione dei referendum abrogativi, l'intreccio fra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, insomma ci sono delle cose, ma sono delle cose, sono delle tracce, sono delle tracce che non hanno mai costituito un programma sistematico, sicché su altre cose sono invece divisi e carenti, alcune cose in tema di diritti civili sono più avanti del PD. Però ma è chiaro, vedremo se c'è, se c'è questa svolta insomma annunciata da Grillo. Intanto io vi devo salutare, capoliste o ultime in classifica, noi stiamo in mezzo, intanto vi ringrazio, alla prossima. Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Allora, alle 7:17 minuti ci siete, cari ascoltatori, qui al terzo giorno di ripresa, ormai anche voi avete ripreso, state ancora facendo le vacanze, eh? Magari ci sono quelli che fanno le vacanze adesso, sono quelli che vedono le persone abbronzate tornare e dire "Mo me ne vado io". Oh, alla facciazza vostra. Allora, parleremo di scuola, perché è stata una notte in cui magari siete stati svegli, siete dei precari della scuola e avete atteso all'una, mezzanotte di capire il vostro destino, se vi è stata assegnata una cattedra. Noi però parleremo non tanto di questo, se volete anche di questo, ma partiremo da quella decisione della scuola liceo pubblico di Milano, il liceo Tito Livio, liceo classico, che ha deciso di insegnare da quest'anno le materie anche in inglese. In inglese è un tema che, quando ho letto ieri da Repubblica in rassegna stampa, ha diviso anche i nostri ascoltatori. Avremo ospite la preside, avremo ospite anche Alex Corlazzoli, giornalista, insegnante soprattutto, anzi maestro, come dice lui, ha scritto un libro anche sulla scuola, ne aveva scritto uno qualche mese fa, ne ha scritto un altro. E parleremo anche con la senatrice Puglisi, del Partito Democratico, parleremo anche con l'ex senatore Crisafulli, quello che si è messo in mente di fare l'università rumena in Italia, in Sicilia. Pare che il ministero non sia per nulla contento. Parleremo di questo, insomma, con i vostri contributi, anche le telefonate all'800 24 00 24, centralini aperti dalle 8. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 2 settembre i titoli sono due, in pratica, le notizie che prendono le prime pagine del giornale: prima i dati economici e poi l'immigrazione. I dati economici: Istat, disoccupati in calo e PIL rivisto al rialzo, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, mentre per il Corriere della Sera l'Italia cresce di più, calano i disoccupati, Renzi dice ripartiamo. La Stampa: PIL e disoccupati, segni incoraggianti. Casa, scontro con l'Unione Europea sul tema delle tasse. Pare che l'Unione Europea non sia per nulla contenta di questa idea di tagliare le tasse sulla casa come promesso da Renzi. Il Messaggero: PIL e lavoro meglio del previsto, questo è il titolo di prima pagina. Così l'Unità, forza lavoro. L'immigrazione invece è il secondo tema sulle prime pagine per il giornale Immigrati, bavaglio di Stato. Lettera minatoria di Palazzo Chigi alla Meloni, le ordina di usare altri toni e cambiare opinioni. Il grande assedio dei migranti a Budapest, gas sui profughi, questo è il titolo di apertura di Repubblica, mentre Libero torna sulla vicenda del duplice omicidio di Palagonia. Il titolo è: per Renzi i clandestini sono loro, e c'è la foto delle due vittime in prima pagina. Il Fatto Quotidiano invece apre su giornata nera per il governo: mafia capitale, vanno sciolti Alfano e il nuovo centrodestra. E poi l'Unione Europea, Renzi, i tagli fiscali te li scordi, mette in primo piano queste due notizie antigovernative o che segnano una giornata nera per il governo, il Fatto Quotidiano. Voglio però partire da che cosa? Dal Papa, che, parlando del giubileo in arrivo, ha mandato una lettera e ha creato un dibattito anche politico in Italia. Perché sono due i grandi temi che ha posto Papa Francesco con questa lettera. Beh, intanto apre al perdono per tutte coloro che hanno abortito, e questo è un tema, se volete, ecclesiastico all'interno della Chiesa. Lo vedremo, c'è un'interessante intervista a Giuliano Ferrara sul Corriere della Sera, ma soprattutto, diciamo, il tema più laico che ha lanciato il Papa è questo. Nella lettera che ha scritto per il Giubileo, ha detto e ha scritto il Papa: il Giubileo ha sempre costituito l'opportunità di una grande amnistia destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell'ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di nuovo nella società portando il loro contributo onesto. Insomma, come scrivono tutti i giornali, il Papa invoca una grande amnistia. Il tema delle carceri è un tema sempre molto delicato politicamente. Francesco invoca l'amnistia, il titolo del manifesto a pagina 5, ma tutti i giornali hanno questa invocazione di Papa Francesco, e ovviamente le reazioni politiche. Liana Milella su Repubblica, pagina 11, racconta come il Papa spiazza il governo, che replica: non ci sono le condizioni per un atto di clemenza. Scrive Repubblica: tra Palazzo Chigi e il Ministero della Giustizia definiscono tutto ciò un fulmine a ciel sereno, una vera sorpresa, secondo fonti autorevoli, perché fino ad oggi, nelle pur intense relazioni bilaterali tra Vaticano e governo in vista del Giubileo, di un gesto di clemenza verso i detenuti non si era mai parlato. Neppure durante le trattative con il ministro della giustizia Orlando per preparare una grande manifestazione a Piazza San Pietro con un migliaio di detenuti presenti, prevista per l'anno prossimo, alla quale il Papa tiene molto. Quello sarebbe stato il contesto giusto per manifestare la richiesta di clemenza, da tradursi nella legge italiana in una amnistia che cancella del tutto il reato, oppure in un indulto, quello che si limita a eliminare la pena. Gli ultimi sono stati nel 90 e nel 2006, un dettaglio considerato molto rilevante. Ma fonti vicinissime al premier Renzi chiudono la questione: non esiste, la questione è chiusa, non c'è alcuna possibilità di aprire una trattativa su amnistia e indulto, non solo perché non si riuscirebbe mai a raggiungere la maggioranza dei due terzi in Parlamento, ma perché il PD ha già scelto una linea alternativa sulle carceri. Dunque questa è la reazione non ufficiale, ufficiosa, ma trapela sui giornali di fronte a questa invocazione di grande amnistia. Questa almeno è la reazione che c'è oggi. Il Fatto Quotidiano sottolinea che in realtà, in un articolo di Tommaso Rodano, in Parlamento vige già l'autoassoluzione, una vicenda che non riguarda l'amnistia ma che viene messa a fianco a questo tema, perché dopo la vicenda Azzollini, senatore sul quale pendeva una richiesta di arresto respinta dal Senato, fa sapere il Fatto Quotidiano che la settimana prossima tocca Giovanni Bilardi, anche lui senatore del nuovo centrodestra, ancora una richiesta d'arresto, e per il PD, dopo la figuraccia su Azzollini, si ricomincia da capo. Bilardi è indagato nelle inchieste sulle spese pazze della Regione Calabria, di cui era consigliere, situazione particolarmente delicata visto che ha subito il sequestro di 357.000 euro, gli sono state attribuite nel corso di interrogatori innumerevoli dichiarazioni mendaci nel goffo tentativo di giustificare le proprie condotte illecite, e settimana prossima, proprio tra 7 giorni, mercoledì 9, la giunta delle immunità si esprime sul suo destino, poi si esprimerà ovviamente anche l'aula. Dicevamo però che l'altro tema lanciato dal Papa è prettamente un tema all'interno della comunità di chi crede, è quello del perdono per chi ha abortito. C'è un'interessante intervista a Giuliano Ferrara che vi voglio sottolineare, che vi voglio segnalare. Paolo Rodari lo intervista per Repubblica. Così la Chiesa rinuncia alla battaglia pro-life, dice l'ex direttore del Foglio, che premette: per carità, è nel pieno diritto del Papa amministrare la misericordia come crede, non ho nessuna imputazione da muovere al pentimento. Il clero, il sacerdozio consacrato possono risolvere al loro interno, nel segno che il Papa ha scelto della misericordia, la questione. Questa cosa non mi fa scandalo. Diverso però è commisurare questa linea della misericordia a una certa sordità culturale sull'aborto in generale. Cioè, quello che contesta il Papa al Papa e a questa Chiesa, dice Ferrara, che oggi manca un discorso culturale forte che sappia rispondere alla sordità del mondo verso l'aborto, un evento considerato ormai dalla stragrande maggioranza della gente un'opzione necessaria. Insomma, il Papa sembra non volersene preoccupare troppo dei temi pro-life. Le sue frontiere sono quelle della povertà e delle miserie sociali, frontiere certamente importanti. Egli ritiene che la biogenetica, la bioingegneria, il trattamento strumentale della vita, la sordità verso l'aborto siano caratteristiche del tempo a cui non si può fare una vera e frontale opposizione. Questo non c'entra nulla con la legittimità del perdono conferito a chi abortisce. Sono due piani diversi. Così Giuliano Ferrara, intervistato da Repubblica. Oh, ieri mi è andata la notizia dello sfregio della barcaccia del Bernini e dell'assoluzione, del fatto che non ci sono immagini, quindi nessun tifoso del Feyenoord verrà processato. Beh, è una bufala clamorosa che oggi viene rettificata dai giornali. Tra l'altro tutto è dovuto, racconta dei giornali, proprio a un misunderstanding, come si suol dire, cioè un errore di comunicazione o di interpretazione. C'è un giornalista olandese che ha interpretato male ciò che un avvocato olandese gli ha detto, ha sparso questa notizia, tutti è prosciolti, tutti assolti, nessuno ha processo, e la notizia ha fatto il giro del mondo. Peccato che fosse falsa. E infatti oggi sui giornali viene rettificato tutto, saranno 44 i tifosi del Feyenoord, i tifosi olandesi, che andranno a processo per quelle devastazioni di Roma. I giudici olandesi dicono nessun colpo di spugna, dovranno rispondere anche dei danni. Lo raccontano tutti i giornali, La Stampa pagina 14 dedica una pagina a questo tema. Collaborativi, solerti, veloci, intrappolati però in un cortocircuito mediatico che per un giorno intero ha stravolto la realtà sulla punibilità degli hooligans olandesi che il 19 febbraio scorso hanno danneggiato la barcaccia. I giudici di Rotterdam hanno invece rinviato a giudizio 44 tifosi sia per vandalismo sia per resistenza e lesione alle forze dell'ordine. Questi i reati che sono stati imputati loro. E quindi questo errore di comunicazione o di comprensione tra un avvocato olandese e un giornalista olandese ha generato questa bufala del nessuno a processo, e invece non era proprio così. Ma è il momento dell'articolo che ci fa più pensare della giornata, quello che ci fa tenere le mani strette sul volante se siete alla guida. Eccolo qui, siamo in prima pagina di Libero, la cifra è di quelle che fa effettivamente sobbalzare anche me sulla sedia. Franco Bechis racconta quanto spende la Camera dei Deputati per le foto, il cerimoniale è importante, per carità, quando si va in giro, le foto, testimoniare tutto. Ebbene, sappiate che il cerimoniale spende all'anno 114.993,20 euro per due agenzie di foto, due agenzie fotografiche. Una prende 56.864 euro, l'altra 58.000 euro, a cui si aggiungono 10.980 euro per un evento istituzionale per cui si è resa necessaria l'opera della prima delle due agenzie. Il costo del cerimoniale, vabbè, Libero se la prende con la presidente della Camera. La Boldrini spende dunque 696 euro al giorno per farsi le foto. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il ministro Boschi dell'informazione. Dai, tacci dentro, dai! Allora, le 7:34 minuti, cari ascoltatori, detto che la notizia con cui apro i giornali, molti dei giornali, è proprio i dati sull'economia, e cioè il tasso di disoccupazione che è sceso al 12% a livelli del 2013, l'Istat che rivede al rialzo da 0,2 a 0,3, il PIL del secondo trimestre portando dunque a 0,6 la crescita acquisita per il 2015. Questi dati che fanno dire a Renzi il paese si è rimesso in moto. Presidente di Confindustria Squinzi invece replica, insomma, ci vuole una ripresa vera, come dire, non degli zero virgola. In ogni caso, invece, il Presidente del Consiglio dice l'Italia è nel gruppo di testa dell'Europa, ha usato questa immagine del ciclismo, cioè non siamo ancora la maglia rosa, tipica di chi vince il Giro d'Italia, ma le riforme servono, non mi accontento, l'Italia comunque si è rimessa in moto, questa è stata la reazione di Renzi. Tra l'altro vi segnalo un'intervista al Ministro del Lavoro, Poletti, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 3, dice: sono contento che la disoccupazione giovanile sia scesa al 40%, non sia più il 42%. Sarei più contento se scendesse ancora, diciamo, al 37%, ma sempre di numeri alti parliamo. Allora c'è un pezzo di riforma, un altro pezzo che bisogna fare. Così Giuliano Poletti. Bisogna reintrodurre un certo grado di flessibilità sulle pensioni, perché tenere le persone dentro le aziende è uno dei fattori che impedisce ai giovani di trovare un lavoro e una delle cause per cui le aziende stesse faticano a tenere il passo con un mondo sempre più veloce. Riguardo alla riforma delle pensioni, dice, intervistato da Lorenzo Salvia sul Corriere, il ministro Poletti: secondo me non deve essere per forza una riforma a costo zero, le penalizzazioni non possono essere insostenibili, bisognerà fare un ragionamento complessivo tenendo a mente che quello non è solo un intervento sulle pensioni, ma come obiettivo laterale, non meno importante, è quello di aiutare l'occupazione giovanile. A questo proposito, Poletti rispolvera quella che è definita la questione della staffetta generazionale dicendo: credo che in termini nuovi bisogna riprenderla in mano. Eh già, ma se ne parla fin dai tempi del governo Letta, replica il Corriere, ma alla fine non se ne fa mai nulla. Perché stavolta dovrebbe andare diversamente? Risponde Poletti: perché sulle riforme dobbiamo accelerare, non dobbiamo lasciarci sfuggire l'occasione di un quadro generale che sta finalmente migliorando. Pensioni, la riforma non è a costo zero, questo è il titolo dell'intervista. Poi Poletti dice: sul lavoro presto ci sarà un dato unico e non una serie di dati divergenti. Un dato unico presto, questo annuncia Poletti. C'è da dire che però se Renzi incassa e mostra molto ottimismo sui dati dell'Istat e sui dati della disoccupazione, c'è da dire che invece proprio nel momento in cui Renzi gongolava un po' per questi dati è arrivato un altolà, sebbene un altolà non ufficiale ma ufficioso, perché è arrivato da una fonte non ufficiale dell'Unione Europea, uno stop di Bruxelles sull'annunciato taglio delle tasse da parte di Renzi sulla casa. Sapete che Renzi ha detto dall'anno prossimo tasse zero sulla prima casa e da Bruxelles arriva lo stop. Proprio mentre a Palazzo Chigi, lo raccontano tutti i giornali, leggo dall'articolo di Alberto Gentili a pagina 5 del Messaggero, proprio mentre a Palazzo Chigi si svolgeva il vertice economico, fonti anonime della Commissione Europea hanno fatto sapere che la cancellazione della tassa sulla casa è contraria alle raccomandazioni elaborate dall'Unione. È ben noto che il Consiglio ha raccomandato che l'Italia sposti sugli immobili e i consumi il carico fiscale che grava su lavoro e capitali. Un altolà, certo, informale, che però fanno sapere alcuni giornali non scoraggia il Presidente del Consiglio. Retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 5 del Corriere della Sera. Il Premier dice: Europa o non Europa, per Matteo Renzi è impossibile non andare avanti col progetto di tagliare la tassa sulla casa. Non torno indietro, ha spiegato ai suoi collaboratori. I segnali di crescita ci sono, non sarà l'Europa a convincermi a venir meno alla parola data agli italiani. Questo dice Renzi, che aggiunge: d'altronde abbiamo già detto che osserveremo i parametri fissati dall'Unione Europea. Dunque un Renzi, nonostante l'altolà da Bruxelles, che dice ai suoi si va avanti su questo annuncio di taglio di tasse. Casa, Bruxelles fredda sul taglio delle tasse è anche il titolo del Corriere della Sera a pagina 5. Una notizia giudiziaria questa volta, e anche questa positiva per il Presidente del Consiglio, è arrivata ieri, perché come raccontano i giornali, lo leggo dal Corriere della Sera pagina 13, la Procura di Firenze ha archiviato una denuncia, una vicenda della casa in cui abitava Matteo Renzi quando era sindaco di Firenze e che era pagata dall'amico imprenditore Marco Carrai. Renzi e la casa di Carrai, il GIP decide di archiviare. Non c'è ipotesi di reato. Dopo l'esposto firmato l'estate di un anno fa da un dipendente comunale e Alessandro Maiorano, che per la verità ha fatto diversi esposti contro Renzi, però la procura non ha ravvisato nessun tipo di reato in questo. Per la verità, scrive il Corriere, che la vicenda della casa non chiude il capitolo Renzi nel Tribunale di Firenze. Ci sono infatti altri due fascicoli pendenti davanti al GIP con richieste di archiviazione della procura. Si tratta di alcuni esposti successivi presentati sempre da Alessandro Maiorano, l'uomo che è diventato una sorta di nemico giurato dell'attuale premier. Questi due esposti chiedono di far luce su altre vicende. Intanto l'assunzione di Renzi nella società del padre 5 giorni prima della sua candidatura alla presidenza della provincia, e l'altro sulle spese all'epoca in cui quello che sarebbe diventato rottamatore era ancora presidente della provincia di Firenze. Sono questi due fascicoli. Intanto però è stato archiviato un altro fascicolo. Questo per quel che riguarda il Presidente del Consiglio. Si muove invece qualcosa anche nel Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto sentire che domenica Beppe Grillo ha detto nel 2014, quando ci sono state le ultime elezioni, non eravamo pronti, abbiamo preso il 25% ma abbiamo imbarcato un po' chiunque e ora faremo diversamente. Il Fatto Quotidiano dedica 2 pagine, pagina 2 e 3, su quello che sta cambiando proprio all'interno del Movimento 5 Stelle. L'annuncio per esempio del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che dice: prima delle prossime elezioni nazionali vi presenteremo una squadra e sceglierete i nostri ministri e il nostro presidente del Consiglio, ovviamente in caso poi di vittoria elettorale. Tra l'altro, a proposito di Movimento 5 Stelle, c'è un'analisi di Fabio Martini sulla Stampa che prende in considerazione un sondaggio. Vanno presi sempre con le pinze i sondaggi, si sa, ma secondo il sondaggista Roberto Weber il credito politico da parte degli elettori al Movimento 5 Stelle è in forte crescita, quelli che improvvisamente ora darebbero il voto ai 5 Stelle. Sembra per il Movimento di Grillo aprirsi nuovi spazi. E racconta la Stampa, secondo questo sondaggio, c'è una parte degli elettori che in passato mai e poi mai avrebbero pensato di votare 5 Stelle, che ora sono pronti di farlo. Anche elettori cosiddetti insospettabili, che magari detestano Beppe Grillo, ma sono talmente delusi da tutti gli altri da essere pronti a fare un passo impensabile fino a poche settimane fa. Per carità, sono sondaggi, ma lo potete leggere sulla Stampa a pagina 7. Ora io devo salutare la capolista. Devo salutare Mauro Meazza. Buongiorno, caro Mauro. Ma buongiorno. Buongiorno. Voglio, oltre che salutarti io, che ti arrivi un saluto da un nostro ascoltatore di fiducia. Salutami quell'amico tuo interista che mi piglia sempre per i fondelli. Dice che mo lo chiamerò Giobacche, visto che parla sempre di lui Giobacche, e mo lo chiamo così. Il nostro caro Angelino, Giobacche, ciao Giobacche, la canzone di Paolo Conte, il nostro amico Angelino. Ciao Giobacche, Giobacche. Senti, ma questi dati che stanno sui giornali, ovviamente sì, sono le 24 ore spiegati, disoccupazione, PIL, c'è questo 0, in più, ma vuol dire che anche l'Italia è capolista, perché mi sembra che il Presidente del Consiglio abbia detto che siamo capolista in Europa. Sì, sì. Siamo nel gruppo di testa. Però ha detto che non abbiamo la maglia rosa, quindi non si capisce bene. Ha fatto un paragone ciclistico, va bene. Sì. Forse perché lui, la sua squadra non è tra le capoliste, invece la mia, come sai, come già ti ho ricordato. La tua sì. Non sola, ci sono molte capoliste da celebrare. Ti volevo segnalare poi, con calma, leggi Beda Romano da Bruxelles sulla vicenda la UE boccia o non boccia. In realtà, sai, bisogna aspettare di vedere cosa si scriverà in questa legge di stabilità, chiedo scusa per la rima, e poi Bruxelles valuterà, deciderà, sanzionerà, chi lo sa. Quante rime fai oggi? Oggi mi sono svegliato abbastanza rimaiolo. È un po' poetico così. Ti voglio anche consigliare la lettura delle pagine di Norme e Tributi, non solo perché ti fa bene e ti serve, mm-hmm, ma perché devi parlare di scuola, mi pare, poco sì, più. Sì, sì. Oh, bravo. Allora, devi sapere che abbiamo in qualche modo salvato i vicepresidi, i vicepresidi che sembrava fossero tagliati, invece ritornano, ne ha riferito il ministro Giannini, noi ne diamo conto appunto nelle pagine di Norme e Tributi. Così come diamo conto di una circostanza importante. Sei felice, sai che questo è un giorno importante? Ti sei reso conto stamani svegliandoti? No, hai ignorato la cosa. Vabbè, sappi che da oggi sono in vigore le nuove norme per circostanziare l'abuso del diritto e il raddoppio dei termini di accertamento. Oh. Hai capito qualcosa? Tutto. No, ovviamente no, perché non leggi con attenzione Norme e Tributi, però sappi che la cosa è importante, la circostanza è importante, e i nostri amici professionisti del fisco, che invece hanno capito benissimo a differenza mia, ecco, quelli leggeranno avidamente quello che scriviamo oggi su Norme e Tributi. Ti volevo anche segnalare, sempre su Norme e Tributi, perché oggi sono tanti spunti proprio lì, che la banca può essere considerata responsabile ed essere chiamata a pagare i danni se si tira indietro in una trattativa per l'erogazione di un mutuo. Uno spunto interessante che ci viene dalla Sicilia. Oh, poi naturalmente, sempre in materia di numeri, ti consiglierei di leggere Imprese e Territori. Le calzature non vanno benissimo, sì, è stato un po' meglino, si può dire meglino? Meglino, Alessandro? Insomma. Meglino. Meglino. È stato un po' meglino sugli addetti, però diciamo che la produzione sta segnando il passo, non è una battutaccia, anche se parliamo di calzature. Bene, tutto ciò premesso, volevo dirti che prosegue l'avvicinamento alle nuove regole sui bilanci. Devi sapere che dall'anno prossimo diventerà obbligatorio il rendiconto finanziario, e tu so che stai sottovalutando la circostanza. No, perché? Ma no, è l'anno decisivo. È un anno, sì, il prossimo però. Sì, sarà. Mese. Ecco, però intanto tu preparati, non farti trovare impreparato. Devi sapere che per i derivati si adotterà il calcolo con il tasso intermedio di riferimento, il tasso interno, scusami, di rendimento, che in sigla, il tasso interno di rendimento, fa TIR. Perché dico questa cosa? Chissà. Per poter dire la mia parola preferita. Traffico! Alessandro Milan, il Dalai Lama d'Occidente. Voliamo basso, come potete vedere. Allora, cari ascoltatori, parleremo anche di immigrazione, cercheremo di capire cosa sta succedendo al confine, nell'Europa, nel centro Europa, dove ci sono moltissimi immigrati che vogliono, sono bloccati a Budapest, vogliono andare in Germania. Si parla anche di manganelli lacrimogeni, il gas utilizzato, gas lacrimogeno ovviamente, nella stazione di Budapest, dove i profughi bloccati al grido di Germania, Germania, vorrebbero raggiungere il centro Europa, poi andare chissà in altre mete, in altri paesi del nord Europa, e anche la polemica politica tra Ungheria, Austria e Germania, appunto con Ungheria e Austria che accusano anche la Merkel di essere responsabile di questa situazione, e anche la Merkel che rimanda al mittente tutte le accuse. Certo, l'immigrazione invece vista dal versante italiano ancora in primo piano, la vicenda molto triste di Palagonia in provincia di Catania con questo duplice omicidio. Tra l'altro si scoprono dettagli sempre più raccapriccianti. Secondo la procura è probabile anche che la donna uccisa, Mercedes Ivanez, 70 anni, sia stata anche violentata prima dell'omicidio. Coniugi uccisi, tracce di abusi su di lei. Sale la tensione, racconta il Corriere della Sera. Ieri è successo che due cittadini del Gambia, che non c'entrano assolutamente nulla con questa vicenda, stavano andando in bicicletta, erano usciti dal centro per rifugiati, stavano facendo un giro in bicicletta, sono stati avvicinati da tre ragazzi del luogo e sono stati picchiati. Uno è riuscito a fuggire mentre un altro no, ed è finito all'ospedale. Questo è il timore della tensione che sale, anche di possibili sbagliate ritorsioni su persone che non c'entrano nulla, ma che sono indice della tensione ovviamente crescente. Libero continua la polemica nei confronti del governo dopo che ieri hanno scritto il governo è complice di questi assassini. Sul Libero oggi c'è la foto delle due persone uccise col titolo molto polemico: per Renzi i clandestini sono loro, cioè 48 ore dall'omicidio, dal duplice omicidio. E scrive il direttore Maurizio Belpietro: Renzi, che ha avuto tempo per festeggiare i numeri dell'Expo, a festeggiare la scoperta del più grande giacimento di gas del Mediterraneo, celebrare la crescita del PIL degli occupati, non ha perso tempo a scrivere neanche un tweet su questa brutta storia in mezzo a tante che sono positive. Tra l'altro, sulla vicenda immigrati c'è una vicenda molto strana e peculiare che riguarda Giorgia Meloni. Lo racconta il Giornale in prima pagina: censura di Stato sugli immigrati. Francesco Kramer racconta questa vicenda, effettivamente abbastanza surreale per Giorgia Meloni. Certo, i politici non risparmiano anche dichiarazioni molto forti sul tema immigrazione, ma Giorgia Meloni si è vista recapitare una lettera dall'UNAR. Cos'è l'UNAR? Organismo pubblico, pagato quindi da tutti noi, nato nel luglio del 2003, che serve a promuovere la parità di trattamento e rimuovere le discriminazioni fondate su razza, origine etnica. È una costola burocratica della Presidenza del Consiglio. E questo organismo, UNAR, ha il potere di bacchettare chi dice qualcosa che non è consono in qualche modo al processo di integrazione e coesione sociale. Ecco allora che Giorgia Meloni, per un'intervista nella quale ha detto la quota di immigrati ritenuta necessaria andava principalmente accolta da paesi che si sono dimostrati non violenti, ha ricevuto questa lettera in cui c'è scritto questo: esaminando con attenzione il contenuto delle affermazioni attribuite a lei, questo ufficio ritiene che una comunicazione basata su stereotipi non favorisca un sollecito e adeguato processo di integrazione e coesione sociale. Si coglie l'occasione per chiedere di considerare per il futuro l'opportunità di trasmettere alla collettività messaggi di diverso tenore. E scrive il Giornale: ma che è, un mincul pop, come nell'epoca fascista, in cui si scrive che cosa è giusto dire e non che cosa non è invece consono da dire per un politico. Comunque, censura di Stato sugli immigrati, così la lettera a Giorgia Meloni. Intanto siamo in diretta anche su Periscope in questo momento, mentre il tempo fugge. Che devo dire? C'è solo spazio per dire una notizia di cronaca, e cioè che trovate su tutti i giornali, notizia molto importante, che riguarda una ricerca, o meglio una scoperta fatta da una ricercatrice italiana a Londra, si chiama Alba Fedeli. Lo scrivono in prima pagina il Giornale, Libero, in prima pagina anche il Giorno. Questa ricercatrice italiana avrebbe scoperto una copia del Corano che è datata prima della nascita di Maometto. È una scoperta che, se vera, riscrive la storia dell'Islam. Una datazione shock di una copia trovata in Inghilterra del Corano, perché a questo punto non sarebbe stato scritto da Maometto, capite che crollerebbe uno dei pilastri su cui si fonda l'Islam. E tutti i giornali dedicano ampio spazio giustamente a questa scoperta, che storicamente potrebbe avere una portata impressionante. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccole qui, le app da rimorchio, una pagina sul Libero per sapere. Guarda come tutti mi guardano con attenzione, Peter Bescavè che già prende nota, Lorenzo Nespoli, dov'è? Su Libero, le app per il rimorchio, volete sapere come rimorchiare? Eccolo qui, sul Libero. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. ciao Milan, che te mattino mi fuoco. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:19 minuti. Oggi parliamo un po' di scuola. Perché ieri, se vi ricordate, abbiamo parlato di lavoro, di come trovare lavoro all'estero. Avevamo Alberto Forchielli che ha scritto questo libro Trova lavoro subito, e tra le tante cose che ci ha detto Forchielli, una mi ha molto colpito. Quando ha detto che l'inglese è fondamentale, senza l'inglese non si va da nessuna parte. Ma arrivano ragazzi che hanno bravi, che non sanno una parola di inglese, sono incollocabili. Ormai tutti i paesi nordici parlano tutti inglese. Quindi non sapere l'inglese è una cosa escludente proprio per trovare. Diventa impossibile, devi essere un genio della matematica, devi essere un genio della pittura per farcela, senza sapere l'inglese. Senza l'inglese non si va da nessuna parte. Non so, immagino che questi ragionamenti abbiano ispirato una decisione che ieri ho letto su Repubblica in rassegna stampa, e che a me pareva, quando l'ho detto in diretta, una cosa talmente positiva da non avere dubbi. Sono rimasto invece stupito quando ho letto questa notizia, perché molti ascoltatori mi hanno scritto via SMS al 349-238-6666, alcuni anche sdegnati a dire: ma no, ma questa decisione è sbagliata, questa decisione è un errore. Di cosa stiamo parlando? Di questa rivoluzione scolastica vera e propria che avviene a Milano in un liceo pubblico, un liceo classico Tito Livio, dove da quest'anno le materie si insegneranno, credo non in via obbligatoria, ma ci spiegherà tra poco tutto la preside, in inglese. Cioè, avete capito bene, in inglese, matematica insegnata in inglese, latino insegnato in inglese, italiano o letteratura italiana insegnata in inglese, arte, tutte le materie insegnate in inglese. Allora, saluto la preside Amanda Ferrario, preside del liceo classico Tito Livio. Buongiorno preside, ben trovata. Buongiorno a voi. Ci spiegherà tutto, perché io ripeto, sono rimasto stupito anche delle critiche. Intanto voglio dire, se volete il numero di telefono per intervenire in diretta, dire anche cosa pensate di questa vicenda e anche di altre vicende sulla scuola che tratteremo, il numero solito è l'800240024. Saluto anche Alex Corlazzoli, maestro, oltre che scrittore, giornalista, ha scritto un altro libro di cui parleremo sulla scuola. Ciao Alex e ben trovato. Ciao Alessandro, buongiorno a te e radioascoltatori. È il nostro cicerone sulla scuola, our Cicero. Bisogna our Cicero, ti piace our Cicero? Proprio bello, così mi piace, così mi piace. Siamo internazionali in questo modo. Ecco. Allora, preside Ferrario, io ripeto, sono rimasto stupito positivamente e ben colpito da questa notizia. Intanto ce la spieghi, come è nata questa idea di insegnare le cose in inglese, le materie in inglese? Allora, nasce da un'esigenza che poi è quella che raccontava lei poco fa. Noi abbiamo studenti mediamente molto bravi, mediamente molto preparati, che alla fine del liceo sono penalizzati dalla mancanza di conoscenza della lingua inglese, o comunque una conoscenza scolastica legata ai testi che hanno letto in letteratura inglese piuttosto che alle materie classiche che si fanno in una scuola pubblica, perché noi onestamente l'inglese, noi italiani, lo sappiamo poco e male. La cosa particolare è che i nostri studenti non trovano più lavoro, o spesso e volentieri non frequentano più l'università in Italia, ma vanno all'estero. Infatti, e partono come ci vantaggio. Diceva Forchielli, che è appunto l'imprenditore con uno sguardo internazionale, dice: se non sanno l'inglese possono essere i più bravi al mondo, ma non diventa difficile. Diventa difficile. Però mi faccia capire, intanto, è obbligatoria? Quest'anno no. Allora, diciamo che il vero progetto parte quest'anno, ma prima presuppone una forte formazione dei docenti. Sì, quindi i docenti partono quest'anno con dei corsi intensivi scolastici che vengono gestiti settimanalmente, quindi fanno scuola come fanno i nostri studenti a partire dal 14 settembre fino all'8 giugno per 2 anni, perché tutti i nostri docenti dovranno essere certificati C1, dovranno padroneggiare la lingua inglese come padroneggiano la lingua italiana, perché altrimenti non potranno poi spiegare le loro discipline in lingua, perché la forza del progetto non è avere un madrelingua o un insegnante di inglese che insegni la materia italiano, storia, filosofia, latino in inglese, ma il disciplinarista, quindi sì, chi già fa latino, chi già fa storia dell'arte, che lo possa fare con la stessa competenza in inglese. È chiaro, e questo non è facile, è però nell'attesa che vengano formati, però che succede? Nell'attesa che vengano formati, da quest'anno potenziamo l'inglese per i nostri studenti, per cui affianchiamo all'insegnante tradizionale e al madrelingua che ormai tante scuole hanno anche dei corsi intensivi di public speaking, per cui non soltanto la storia della letteratura inglese o la storia inglese, ma il sapersi muovere in un contesto di difficoltà, quindi risolvere dei problemi in inglese, affrontare una situazione in inglese, muoversi nella città e lavorare, sì, per esempio a contatto con persone che l'inglese lo parlano. Diciamo che però, preside Ferrario, nell'attesa di capire se questo progetto sarà definitivo e quando sarà definitivo, mi sembra che il senso di tutto ciò è pensare di far padroneggiare agli studenti non solo le materie, ma anche le materie in inglese, quindi in lingua. Alle critiche che sono arrivate, anche a noi, ecco, sì, esatto, di chi dice si svilisce la lingua italiana. Ma come insegnare il latino in inglese? Ma come insegnare il greco in inglese? Che risponde? Allora, rispondo così. Intanto noi non togliamo nulla, aggiungiamo. Quindi le materie in italiano continueranno ad essere insegnate in italiano anche a regime. Quindi quando i ragazzi che entrano quest'anno in prima saranno in terza e inizieranno questo percorso, sceglieranno liberamente se aggiungere alle ore di latino, di greco, di storia e filosofia fatte in italiano anche ore delle stesse discipline fatte in inglese, con un approccio ovviamente diverso, perché la lingua inglese strutturalmente è diversa dalla lingua italiana, ma non solo un approccio linguistico, un approccio anche mentale. Quindi quando noi studiamo per esempio opere latine o filosofi o parti della storia in italiano, sì, le studiamo anche con una, come dire, con un prerequisito italiano, per cui immagini quanto sarebbe bello per esempio studiare filosofi inglesi anche in lingua inglese, leggendo i loro testi in lingua questo naturale. Sì, però come per si può latino, leggere greco, è chiaro, come si può leggere il Petrarca in inglese, o comunque, cioè, si legge in italiano, ma come lo si può spiegare in inglese? Allora, tenga presente che noi leggiamo tantissime opere in traduzione, tutte le opere che ci arrivano e che noi studiamo in italiano dal mondo francese, inglese, latino, spesso la storia della letteratura latina si fa in italiano. Quindi perché non poterla fare anche in inglese? Cambia il punto di vista, cambia la conoscenza della lingua. La lingua ci serve, la lingua inglese è il veicolo per poter comprendere meglio un autore, e il prerequisito è conoscere perfettamente la lingua italiana, altrimenti non si traduce niente. Ah, ma guarda, ma non deve convincere me, preside, però le critiche sono arrivate, arrivano per sms, quindi... Diciamo che fondamentalmente è vero che i nostri studenti, non parlo della mia scuola, parlo in generale, padroneggiano meno la lingua italiana. Non è purtroppo un problema della scuola superiore, è un problema delle scuole di ordine di grado inferiori, cioè, la lingua italiana, quando uno studente di liceo non conosce la teoria del verbo, non è pensabile. Il problema sono all'elementare, è chiaro, all'elementare o alle medie. Dove, diciamo, il problema è precedente. Ma guardi, ecco, Alex Corlazzoli è un maestro di scuole elementari, no? E quindi conosce bene la problematica. Però Alex, che ne pensi intanto di questa iniziativa? Per me è un'iniziativa positiva, però si sa, in Italia poi quando qualcuno cerca di fare qualcosa... partono anche subito le critiche. Tu che dici? No, fammi esaltare Amanda Ferrario, perché direi proprio grande, coraggiosa, magnifica, perché finalmente qualcuno che guarda oltre, qualcuno che guarda anche il lato occupazionale di questi ragazzi, come spiegavi tu prima. Anzi, tra un po' dovremmo iniziare anche a introdurre per esempio il cinese. Io l'ho già scritto. Noi lo volte facciamo questo. Voi lo fate. Eccoci qua. Anche in altre scuole, insomma, hanno già iniziato a fare il cinese, perché i nostri ragazzi stanno andando in Cina, non è che stanno andando, che ne so, nelle Marche a trovare lavoro, non è che stanno andando in Veneto a trovare lavoro. E in più ha ragione la preside Ferrario, veramente è alla primaria che c'è il problema, anche perché alla primaria c'è un altro problema, caro Alessandro, quello che la maggior parte di noi maestri non sanno l'inglese. Anche perché infatti io quando la preside diceva i professori dovranno andare a scuola scuola. Io so già che questa era musica per le orecchie tue, perché sulla formazione, sulla necessità di stare sempre al passo con i tempi e la formazione dei docenti, questo è il tuo cavallo di battaglia, Alex. Esatto, ma è fondamentale. Ma con Lazzoli stesso, che non sa bene l'inglese, non possiamo noi fare la trasmissione in inglese, Alessandro, non chiamare. Io no, assolutamente. Nemmeno io, quindi lo ammetto. Però quest'anno, firmando il ruolo, mi hanno anche fatto firmare, e con me migliaia di persone, l'obbligo del corso di inglese. Ora, chiariamoci, contentissimo, perché finalmente, oltre a saperlo come lo so per i viaggi, lo imparerò in maniera perfetta. Ma è un assurdo che a 40 anni uno, dopo aver fatto già 10 anni di scuola, adesso sappia l'inglese. Doveva saperlo prima, ma noi fino agli anni 80 non l'abbiamo insegnato. Questo è vero. Dobbiamo come dire, colmare questo gap. Ecco, così anche una parola più d'inglese l'ho detta anch'io. Gap, esatto. Adesso c'è una gara, magari. Questo gap. No, devo dire che, tra l'altro, ieri le critiche, oggi arrivano invece una messe di complimenti. Cioè, addirittura, cara preside, un ascoltatore che dice: mio figlio va in quarta elementare, ma sto già cercando su Google Maps dove il titolo Livio si porta avanti. Un po' avanti, certo. Ecco, questo genitore. Vabbè, arrivano invece molti elogi. Brava preside, giusto, una decisione giusta. Mi faccia capire, i docenti come hanno reagito? Tutti bene? Guardi, ieri su Repubblica leggevo tutti bene. Ma che è un paradiso quella scuola lì. Adesso tutti non si può dire, nel senso che io ho una 53 docenti in organico. Ovviamente coloro che sono in età pensionabile nei prossimi 4-5 anni sono un po' esonerati, ma li esonerò anch'io, nel senso che l'investimento per me è a lungo termine, quindi se mi fanno 2 anni di corso e poi un aggiornamento, perché la lingua deve essere padroneggiata, ma poi c'è la metodologia. Insegnare una materia in lingua inglese non è la stessa cosa che insegnarla in italiano, quindi bisogna affiancare una metodologia diversa. Parliamo di docenti che arrivano al massimo intorno ai 53-54 anni. Come diceva Alex Corrazzoli, felici di imparare finalmente l'inglese, perché è una generazione che è stata esclusa dall'insegnamento delle lingue, ritenendo sufficiente la disciplina o il proprio piccolo pezzettino. Si rende conto anche adesso che non è sufficiente, basta fare un viaggio, basta andare ad Expo, basta trovarsi per la strada a Milano quando qualcuno ci chiede un'informazione, l'inglese serve, non si può escludere, non si può essere ipocriti. Questo sì. Voglio fare subito una domanda. Dicevo che Alex Corrazzoli ha scritto un nuovo libro, abbiamo parlato del libro precedente, ma insomma Corrazzoli è così, è un vulcano di idee, scrive libri come prendere il caffè. E allora il nuovo libro che hai scritto, tra l'altro l'hai scritto con un ragazzino di 13 anni, Mattia Costa, che è stato un tuo allievo, infatti ti chiama ancora maestro, no? Tu sei il maestro per tutti i tuoi ex allievi. Il titolo di questo libro: sai, maestro, che da grande voglio fare il premier. Ora non voglio capire cosa sia successo di male nella testa di questo ragazzino per voler fare una cosa così, e sto scherzando ovviamente. Ovviamente Mattia Costa, 13 anni, fa parte di che generazione? Di quelli che l'inglese già lo padroneggiano? Eh sì, lui fa parte della generazione. Loro sono salvi, Loro si sono più o meno salvati, perché non hanno avuto magari l'insegnante madrelingua, perché alle elementari appunto pure hanno avuto insegnanti che l'inglese lo padroneggiavano sì e no, grazie ad un corso di un anno magari o due. Quindi sono quelli a metà, diciamo, tra me e diciamo quello che veramente lo padroneggia, ci stanno loro. Sì. Però ha una buona possibilità, insomma, di fare il premier e di parlarlo meglio magari del nostro premier. Visto che l'inglese invece non sembra che sia proprio, viene dalla nostra generazione, viene dalla mia generazione, Matteo Renzi, quindi insomma è anche giustificato in qualche modo. Cioè, la sa così. Però vedete, visto che arrivano tanti elogi, mi dicono che c'è invece un ascoltatore che ci chiama, Claudio da Roma, che mi risulta essere, mi dico dalla redazione, critico nei confronti di questa proposta. È così, Claudio? Buongiorno. Buongiorno. Sì, sono Claudio da Roma, grazie per avermi invitato. Lei. Sì, allora io sono assolutamente contrario, perché ritengo che il liceo classico, soprattutto in particolare, che è una delle scuole migliori nel mondo, si distingue nel mondo potenzialmente, non accetto proprio l'idea che si insegnino materie classiche in inglese. Invece, secondo me, l'alternativa dovrebbe essere quella di potenziare i corsi in inglese a partire dalle scuole elementari, le medie e poi nello stesso liceo classico che istituzionalmente ha un corso in inglese. Quindi cioè fare, cioè insegnare l'inglese sì, ma lei non accetta questo, cosa come lo vede, come uno sfregio quello di insegnare le materie classiche in lingua inglese? No, ma perché i nostri ragazzi non sanno neanche parlare in italiano, andiamo... Cioè, il liceo classico dovrebbe assolutamente promuovere lo studio delle lingue classiche e migliorare l'utilizzo della lingua italiana. Ma infatti, ma promuove questo studio, ma lo fa in inglese. Però questo è ciò che lei contesta, il fatto che non sappiano l'italiano, è vero, ma ci ha detto già la preside, sono le scuole primarie qui a essere imputabili. Però preside Ferrari, vuol replicare a Claudio da Roma? Sì, allora replico in questo senso, facendo una provocazione. Quando i nostri studenti poi andranno all'università e faranno dei corsi in inglese o studieranno fisica piuttosto che anche lingue classiche o giurisprudenza, la lingua veicolare ormai è la lingua inglese, se andranno all'estero, come si insegna all'estero il latino, come si insegna all'estero il greco? Noi diamo un prerequisito fondamentale, manteniamo la nostra classicità e lo facciamo ampliando il lessico, andando avanti con le nostre discipline, lingua latina, lingua greca, ma diamo una possibilità in più di avere una visione diversa, che è quella che si lega un po' più al mondo, e diamo la possibilità in questo modo agli studenti europei di venire a frequentare il liceo classico da noi. Ha ragione l'ascoltatore quando dice che è l'unica scuola in tutta Europa, è vero, non teniamola solo per noi, allora diamo la possibilità anche ad altri studenti, adesso ci sono dei programmi di scambio fantastici, di venire in Italia a fare un anno o due e frequentare una scuola che sia effettivamente appetibile anche per loro. No, ma guardi, io sono sposo totalmente questa linea, sono d'accordo, anche mio figlio va alla scuola primaria, andrà in seconda e fa una di quelle scuole pubbliche assolutamente, dove c'è questa sperimentazione del BEI, Corlasoli, esatto. Tu la conosci, il BEI, no? Cioè alcune materie sono insegnate in inglese e non ci trovo nulla di male, insomma si trova benissimo, la impara e impara nel frattempo l'inglese. Però come dire, il dibattito è aperto, come si suol dire in Italia. Io presidente intanto la ringrazio per essere stato con noi. Amanda Ferrari, presidente del liceo classico Tito Livio, Alex Corlazzoli, tu rimani invece con noi, our Cicero, perché tra poco ci sarà con noi anche la senatrice Francesca Puglisi del Partito Democratico, perché è stata una notte importante questa per molti insegnanti, mi pare di capire, Alex, no? Una notte veramente folle, io direi, folle, per questi poveri insegnanti, eccolo, poi lo raccontiamo, folle. Tra poco lo raccontiamo. Molti insegnanti hanno saputo questa notte, avranno due occhi pallati se ci stanno ascoltando, dove sono stati assegnati come cattedra, e magari in province diverse da dove abitano, magari in regioni diverse da dove abitano, hanno 10 giorni di tempo, credo più o meno, per accettare, altrimenti perdono ogni diritto alla cattedra. Tra poco. Allora, alle 8:39 minuti stiamo parlando di scuola, dopo la decisione del Tito Livio di insegnare in inglese le materie, adesso parliamo invece di questa notte che è una notte passata, è stata certamente importante per migliaia di insegnanti in tutta Italia, perché a mezzanotte, un minuto, tramite il collegamento con il cervellone centrale del Ministero dell'Informazione, del Ministero dell'Istruzione, hanno potuto scoprire a che cattedra sono stati assegnati, in che scuola sono stati insegnati molti dei precari. È uno degli elementi strutturali della legge sulla cosiddetta buona scuola, e questa notte hanno scoperto, alcuni magari hanno scoperto che dovranno cambiare provincia, altri regione, perché è stata assegnata loro una cattedra, che ne so, sono di Milano, è stata assegnata loro una cattedra a Bari. Può succedere, e hanno 10 giorni di tempo per accettare oppure rinunciare per sempre. Intanto voglio salutare la senatrice Francesca Puglisi del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Istruzione, buongiorno, è responsabile anche scuola del partito. Allora, io a chi ha definito questa lotteria delle assunzioni, vabbè, magari un po' c'è questa lotteria delle assunzioni, anch'io quando ho sentito la parola deportazioni sinceramente sono sobbalzato sulla sedia, il peso delle parole è importante, lasciamo il termine deportazioni per altre cose ben più gravi, ma intanto ci faccia capire, senatrice, quante delle persone, degli insegnanti questa notte percentualmente si sono visti assegnare una cattedra fuori provincia o fuori regione addirittura? Da ciò che ci ha fatto sapere il Ministero, circa un insegnante su 10. Ovviamente È molto improbabile il caso che lei citava prima, da Milano a Bari, è più verosimile l'inverso, da Bari a Milano. Questo perché nel centro-nord la popolazione scolastica è in crescita e quindi i posti ci sono. Nel mezzogiorno la contrazione della popolazione scolastica fa sì che ci siano molti più precari dei posti disponibili. Vabbè, il principio non cambia, diciamo un grande spostamento per qualcuno ci sarà sicuramente. Uno su dieci, esattamente come gli scorsi anni, quando anche lo scorso anno, in assenza di questa legge di riforma, si sono spostati dal mezzogiorno verso nord per accedere al ruolo a tempo indeterminato circa 7.000 insegnanti. Quindi i numeri non cambiano, è una cosa che è sempre accaduta negli anni e che gli insegnanti a cui è stata offerta questa possibilità, sapendo bene appunto che in Sicilia ci sono pochi posti e che invece nel centro-nord ce ne sono di più, questa cosa può accadere, sì. Ma c'è un'altra, ci sono due questioni importanti che il Ministero ovviamente e anche il cervellone del Ministero ha tenuto in considerazione. Uno, le preferenze espresse in termini di priorità dagli insegnanti tra le 100 province su cui bisognava optare. E inoltre molti di questi insegnanti per questo anno scolastico, anche se firmeranno un contratto a tempo indeterminato nel centro-nord del paese, potranno continuare a svolgere il loro incarico di supplenza annuale vicino casa in attesa dell'anno prossimo. In attesa dell'immissione in ruolo definitiva del prossimo anno, ma soprattutto del piano nazionale di mobilità straordinaria che è previsto il prossimo anno. Sì, quindi diciamo, questo è la possibilità di riavvicinarsi a casa. Questo è quello che è successo questa notte, poi i dettagli li scopriremo nei prossimi giorni, perché è successo veramente qualche ora fa, 8 ore fa, queste assegnazioni. Come sa, senatrice, qui c'è Alex Corazzoli, che è sempre molto critico, anche trova gli spunti critici di questa riforma. Alex, perché è definito una notte folle quella che è appena passata? Intanto saluto la senatrice Puglisi, con la quale ogni tanto ci troviamo in battaglia amicale, sì, insomma, rispetto a questa questione. Io stanotte, sai, dibattito, io stanotte ero con loro, ero con i precari, nel senso che ero qui collegato anch'io in collegamento telefonico con un paio di loro, sì. E soprattutto sulla loro pagina Facebook, il docente migrante che hanno creato. Sì. Ti leggo solo, perché uno di questi, uno dei tanti, e poi ti faccio l'elenco del necrologio, come lo chiamo io. Sì. Questa Sonia Sarli, che scrive all'1 di stanotte: questa notte alle 24.01 un cervellone mi ha proposto il ruolo dopo 15 anni di insegnamento nel sostegno, a quasi 500 metri da casa. 500? Mia... Beh, è andata bene. 500 metri, è andata bene. Benissimo, sì, ma meglio di così. Altri, 500... E nella mia disciplina, che ho insegnato per soli 6 mesi di supplenza 10 anni fa, nonostante avessi dato la precedenza al sostegno. Ma si sa, i cervelloni sono fatti così. Ringrazio e alla tenera età di 62 anni accetto e vado avanti. Oh, ok. Vabbè, però almeno la distanza, cioè lei non farà la migrante, ecco, questo... Vabbè, sì, 500 chilometri, insomma. Ah, no, io ho capito, hai detto 500 metri. No, 500 chilometri. Ah, beh, fa una differenza. Io ho capito, 500 chilometri. Roma, insomma, no, ah, no, no. 500 chilometri. Chilometri, no. Chilometri, no, infatti lo... E così come, guarda, Daniela, che ho intervistato proprio nei giorni scorsi, che stanotte mi scriveva, Bergamo mi hanno dato, questa è di Ascoli Piceno, ha una bambina che compie 3 anni il 21 di settembre, ok, e dovrà partire per Bergamo con 1.200 euro. Ti voglio fare il necrologio, proprio l'elenco che mi sono fatto. Però le statistiche, dice la senatrice, sono 1 su 10, cioè ovviamente io non ci credo. Non ci credo. Alessandro, per ora non ci credo, attendo tra qualche ora di vedere altri numeri, perché io c'ho qui un elenco di oltre 15 persone e su 15 persone ho un solo Gorizia a Trieste, cioè uno che sta a Gorizia. Vabbè, magari si manifestano i non lo so, io adesso poi senatrice le statistiche le vedremo, magari si manifestano all'inizio i delusi, cioè quelli che hanno avuto la destinazione molto molto distante. Beh, questi devo dire che c'è gente che da Palermo deve andare a Milano, da Napoli deve andare a Genova, sì. Questo scriveva per me una condanna, da Salerno a Brescia. Insomma, effettivamente senatrice, per queste persone è un disagio, è inutile negarlo, perché uno da un giorno all'altro deve scoprire di andare. Non tutti avranno la supplenza annuale, Alessandro, diciamolo, perché questa questione della supplenza annuale, che tra l'altro ora dobbiamo anche vedere le cose nella loro complessità, sarà comunque un danno per la continuità didattica. No, ma è un tema che c'è. Vorrei do le informazioni sul traffico, così poi andiamo fino alla fine della trasmissione e faccio questa domanda, le faccio già questa domanda, senatrice. Il presidente della regione Puglia Emiliano, che è del suo stesso partito, Partito Democratico, qualche giorno fa ha detto: io sono pronto per affrontare questo disagio di molti insegnanti che si dovranno spostare a dare affitti agevolati e treni gratuiti o comunque a prezzi agevolati, perché effettivamente questa riforma creerà un disagio per diverse persone che si dovranno spostare. Tra poco. Eccoci qui. Allora, senatrice Puglisi, che rispondiamo a quelli che si manifestano nel loro disagio di doversi trasferire? Che è comunque un'opportunità che hanno deciso di cogliere, quella di trasferirsi da sud a nord per entrare in ruolo. Queste persone, come quella citata poco fa da Bernattoli, avevano la prospettiva di fronte a sé di restare precari fino alla pensione. Quindi molti di questi hanno colto l'opportunità offerta al governo di un posto a tempo indeterminato. Quanto al presidente Emiliano, innanzitutto abbiamo apprezzato nelle dichiarazioni di questi giorni il cambio di tono nei confronti di questa riforma che lui stesso ha definito epocale. Sì. Dopodiché siamo disponibili a discutere di tutto, di come alleviare il disagio di chi si deve trasferire per entrare in ruolo a tempo indeterminato. Voglio ricordare però che lo stesso disagio lo hanno patito negli anni molti insegnanti trasferendosi appunto da sud a nord, perché a nord i posti ci sono, nel mezzogiorno no, e soprattutto che molti pugliesi avranno l'opportunità, molti insegnanti pugliesi, di non essere più né precari né cioè, ma lei dice di fronte al posto a tempo indeterminato c'è da fare questo questo sacrificio di trasferirsi vorrebbero compierlo tanti italiani che in questo momento sì, capisce, no, ma io, no, ma io capisco, cioè, vedere... io mi sono trovata nella stessa condizione ma è chiaro, l'azienda per cui lavoravo anni fa a Bologna chiuse a causa della crisi, la e dove si è trasferita? Mi propose a Milano. A Milano, Bologna, a Milano. No, ma capisco, cioè, a giudicare una riforma dal punto di vista poi peculiare di ogni singola specifica posizione non è facile. Alex Corlazzoli, non Bernazzoli, Corlazzoli, Alex, tu che dici? Cioè, a me dispiace per quella insegnante o quella di 62 anni che deve andare a Roma a 500 km o quella da Ascoli Piceno a Bergamo, la bambina di 3 anni, però... Come fare la riforma perfetta che vada bene per tutti? Ti faccio proprio questa domanda. Sì, ma qui secondo me c'è stato un gran pasticcio, nel senso che dovrei capire allora perché l'anno prossimo invece questi faranno una grande mobilità e stiamo illudendoli e dovranno in qualche dicendo ora che potranno tornare a casa. Non è così. Le cattedre non ci sono, la mobilità non tutti potranno tenerla e quest'anno con l'escamotage della supplenza annuale, che tutti guardano un po', questa è un'opportunità, ma tutti stanno aspettando la supplenza annuale. È così tanto un'opportunità che sono tutti lì che sperano di avere almeno la supplenza annuale per stare a casa almeno quest'anno. L'anno prossimo comunque la valigia la devono fare, niente a fare. E non fare. È tanto un'opportunità, Alessandro, questi sono stati costretti perché o ho capito, ma costretti, però hanno fatto, dice la senatrice Puglisi, hanno accettato facendo, facendo l'insegnante anche la possibilità di una mobilità del dipendente pubblico, che succede che c'è una cattedra disponibile non proprio sotto casa. Certo, capisco che 500 chilometri sono un po' più che sotto o casa, anche più di 500 chilometri, anche perché 800. Ricordiamo un altro dato, Alessandro, la senatrice diceva anch'io sono stata trasferita a Milano-Bologna, io le voglio chiedere che stipendio aveva questa gente. Noi abbiamo lo stipendio più basso d'Europa, 1200 euro guadagna un insegnante della scuola primaria, che deve queste persone partire, affittarsi una casa, prendere una babysitter, prendere una macchina perché magari non finisce a Milano ma finisce, che ne so, a San Donato Milanese piuttosto che non so dove, dar da mangiare a lei e alla figlia, pagarsi il mutuo che ha ad Ascoli Piceno. Ora con 1200 euro stiamo parlando di gente che ha lo stipendio più basso su questo d'Europa, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Senatrice, senatrice Puglisi, come effettivamente questo è una, proprio un aspetto molto pratico, a una che guadagna 1200 euro al mese, come è possibile rientrare in tutto questo? Guardi, io ribadisco, è una scelta che molti insegnanti hanno fatto anche l'anno scorso in assenza della buona scuola, proprio per non restare precari fino alla pensione. Nessuno li ha costretti a fare domanda. L'alternativa era quella di restare nelle graduatorie ad esaurimento, e oltre 70.000 insegnanti invece hanno deciso che era il momento di cogliere questa opportunità. Questo governo ha ampliato l'organico della scuola italiana di 50.000 posti. Perché è stata fatta la mobilità straordinaria per il prossimo anno? Proprio per permettere a chi vuole riavvicinarsi a casa. È ovvio che non saranno tutti, non raccontiamo balle, non è questo il nostro compito. Ma chi soprattutto si è mosso anni addietro deve poter avere l'opportunità di rientrare a casa qualora appunto i posti fossero disponibili. Quindi è un'opportunità che verrà offerta a tutti, anche a coloro che si sono mossi anni fa per entrare in ruolo. Quindi non avevamo alternative, non potevamo portare i bambini del nord a sud per far lavorare gli insegnanti del mezzogiorno. Sì, sì. Dovevate fare offrire un posto a tempo indeterminato a chi ha già fatto, per colpa della politica, troppi anni di precariato. Allora, io vorrei aver creato 50.000 posti di lavoro in più nella scuola, perché la scuola e soprattutto i ragazzi ad averne bisogno, crediamo sia stato uno straordinario investimento di questo. Allora, io vorrei capire in conclusione, Alex Corrazzoli ha detto che tra l'altro noi andiamo avanti fino alle 9.30, saluteremo ovviamente la senatrice Puglisi, però siccome ci raggiungerà Vladimiro Crisafulli, lo conosci Alex dopo le 9? Certamente sì. Tu puoi stare con noi anche dopo le 9? Sto con voi, non sono a scuola. Va bene, certo, le scuole non sono ancora riprese, però intanto che direbbe Mattia? Dici questa cosa, Mattia, con cui tu hai scritto un libro di questa riforma. Sai che ha scritto un libro, senatrice Puglisi, con Mattia Costa, suo ex allievo, e il titolo del libro è Sai maestro che da grande voglio fare il premier. Ecco, cosa direbbe Mattia da politico? Poi lo do alla senatrice quando ci vediamo a Roma, ti ho fatto la presentazione dell'altro libro, ecco, quindi riporto questo, però, perché dai bambini verso imparare. In realtà Mattia proprio ha raccontato la sua buona scuola, dove vorrebbe in realtà la porta del preside aperta, dove vorrebbe veramente, proprio di questa cosa lui, ecco, degli insegnanti non ne ha parlato, ecco. Voleva vedere delle scuole più belle, voleva vedere dipinte alla sua aula, voleva l'armadietto come gli americani. E allora facciamo così, ripartiamo da qui dopo le 9. Ringrazio la senatrice Francesca Puglisi, rimane con noi Alex Corlazzoli, dopo le 9 parleremo ancora di scuola. Buongiorno da Maurizio Melis. Il vetro fotovoltaico, o meglio un qualche tipo di superficie trasparente capace di convertire in energia elettrica una parte della luce che lo attraversa, è da anni uno degli sviluppi più ambiti dalla ricerca nel settore dell'energia solare. L'occasione di trasformare in immensi impianti fotovoltaici le facciate di grattacieli e palazzi a vetri, infatti, è a dir poco ghiotta. E l'anno scorso un gruppo di ricercatori americani e dell'Università di Milano Bicocca Rocca aveva avuto successo, primo al mondo, nel creare uno di questi vetri fotovoltaici sfruttando un principio fisico identificato negli anni 70 che nessuno era stato però in grado di tradurre in pratica. Il team italo-americano è riuscito nell'impresa grazie a una dispersione di speciali nanoparticelle fluorescenti all'interno di lastre trasparenti, composte da materiali comuni come per esempio il plexiglass. Un anno dopo lo stesso gruppo ha perfezionato la tecnologia che ora è pronta per l'industrializzazione. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:50. Buona giornata. Audi ti aspetta su audiinnovativethinking.it, la piattaforma delle idee e delle persone che aprono la strada al cambiamento. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. Occupiamoci oggi dell'andamento del prezzo del petrolio. La regina delle materie prime, infatti, aveva sempre avuto andamenti intanto molto lineari e graduali e in secondo luogo molto legati all'economia. Quello a cui assistiamo invece in queste settimane è un prezzo del petrolio che assomiglia ad alcuni titoli molto sottili delle borse più speculative. Prezzi sulle montagne russe, un più 5% un giorno che diventa un meno 8% il giorno dopo. Una cosa mai vista per l'oro nero, ma che ha alcune spiegazioni. In primo luogo gli errori commessi dagli stessi paesi produttori di petrolio. L'organizzazione più importante dei paesi produttori di petrolio ha infatti mantenuto i prezzi bassi, scommettendo che in questo modo avrebbe espulso dal mercato tutti i produttori di petrolio statunitensi che lo estraggono attraverso le sabbie bituminose del Nord America. Un prezzo del petrolio troppo basso, si diceva, non avrebbe reso più conveniente quel tipo di estrazione. Ma non solo questa scommessa si è rivelata sbagliata, l'America continua a produrre petrolio dalle sabbie bituminose e a mantenere la sua autosufficienza. Questa scommessa si è rivelata ancor più sbagliata e sballata nel momento in cui l'Iraq ha aumentato la sua produzione e l'Iran ieri ha fatto sapere che potrebbe nel giro di 5 mesi aumentare la sua produzione di 1 milione di barili al giorno, portandolo da quasi 3 milioni a quasi 4 milioni. Errori previsionali e analisi sbagliate che hanno portato il greggio sull'otto volante. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Allora, come sapete, tutto il mese di settembre andremo in onda fino alle 9:30. Siamo con Alex Corlazzoli, insegnante, anzi maestro, autore di libri sulla scuola. L'ultimo che ha scritto è "Sai, maestro, che da grande voglio fare il premier". L'ha scritto con un tredicenne, suo ex allievo Mattia Costa. Ma qui, Alex, dobbiamo parlare un attimo di università, perché quando ho letto sui giornali arriva l'università rumena in Sicilia, insomma, come poi la pongono i giornali, non si capisce niente, dice ma come l'università rumena, ma che vuol dire? Il ministero oggi ha detto, scrive il Corriere della Sera, il ministero intima di non portare alcuna università rumena a Enna, nessuno ha chiesto e dato autorizzazioni e il ministero diffida tutti i soggetti coinvolti dall'andare avanti prima di aver chiarito la questione. Ecco, cerchiamo di chiarire la questione e voglio salutare Vladimiro Crisafulli, ex senatore del Partito Democratico. Buongiorno Crisafulli. Buongiorno, buongiorno. Perché non ho capito come mai, o forse lei ce lo spiega, questa iniziativa è un po' legata a lei, diciamo la verità, all'associazione, a un'associazione. Cioè, lei cosa vuol fare? È vero che vuol portare una costola dell'università rumena di medicina a Enna? Sì, ho lavorato con l'università Donarea di Jos per creare le condizioni affinché la Romania autorizzasse la stessa università ad aprire una sede staccata a Enna. Ah, quindi già questa è una prima cosa. È vero che lei vuole portare, vuole contribuire a portare una sede distaccata dell'università rumena di medicina in Italia, a Enna, che è la sua città. Parliamoci chiaramente, lei lo fa perché che succede? Che ogni anno ci sono circa quest'anno 60.000 che tenteranno di fare il test di medicina, ma ne verranno presi solo 10.000, quindi siccome è un numero chiuso, lei vuole offrire un'opportunità in più? No. No. Purtroppo non è così. Le opportunità le offrono la Romania, la Spagna, la Francia. Perché nei fatti i ragazzi fanno così, fanno il test in Italia, se non passano vanno in Romania, si iscrivono in Romania, poi in Spagna, in Francia, in Albania. E quindi lei dice apriamo una sede rumena qui e mandare i ragazzi là, io ho ti fa studiare qui un'università rumena, che fate venire lì. Sì, però il ministero ha detto che ha intimato, ha sentito, no? Ha intimato, ha detto. Non lo so, io, a me non è arrivato niente. Ma comunque non è questo il problema, perché se il ministro vuole essere informato, vuole chiarimenti, figuriamoci, ha tutto il diritto di avere tutti i chiarimenti. Probabilmente le informazioni che sono state date al ministro non sono per lei. Ma lei non ha capito, ma perché lo fa? Per permettere a dei siciliani di studiare, se non passano l'esame, invece di andare in Romania, studiate a Enna. In rumeno. Ecco, cioè, questa cosa però adesso lei mi deve spiegare. Ho letto ieri che intanto farà dei corsi accelerati di rumeno, di quanti? No, faranno loro. Faranno loro, sì, certo. Romania. Cos'è, 20 giorni, 30 giorni? No, guarda, 30 giorni, 10 settimane. No? 10 settimane. Ma come si fa a imparare il rumeno in 10 settimane? Ma qualsiasi lingua in 10 settimane, Crisafulli? C'è gente che in 50 anni non impara l'italiano. Sì, questo è vero, sì. Ma questo è il problema della lingua italiana, che è complicata, la lingua rumena no. In ogni caso questo è quello che è previsto dallo schema di studio della Romania, cioè chiunque vada in Romania a fare un test per l'accesso, sì, prima deve imparare la lingua e gli fanno fare 360 ore. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile imparare? Cioè è una lingua talmente semplice che in 10 settimane no, si imparano? Il problema è che danno i fondamenti per poter accedere ai test e dopodiché continua con la corso di formazione per tutto il periodo. Tenga conto che i professori vengono qui a insegnare il rumeno, appunto. Parleranno il rumeno, per cui la formazione è continua, non è una formazione che si ferma in 10 settimane, è un'operazione di full immersion di 10 settimane che ti permette di fare il test, che ti permette di passare. Di fare il test e di cominciare ad avere gli elementi di base, poi tutto il resto si svilupperà nell'arco degli anni. Cioè, quindi, Alex Corlazzoli, potresti farlo anche tu, potrei farlo anch'io. Cioè, 10 settimane ci mettiamo sotto e magari passiamo. Abbiamo i rudimenti per passare il test in rumeno di medicina. Oppure possiamo inventarci, che ne so, tu un'università della Lettonia e io un'università della Lituania, perché se in Italia è possibile inventarsi le università così. Ma no, però inventarsi è una costola dell'università rumena in Italia. Ci sono università straniere in Italia, no? Perché io ho pensato di prendere contatti con la Lituania stamattina. Ho pensato che ieri, dopo aver letto questa iniziativa da parte del senatore, tra l'altro una curiosità, ma sì, Crisafulli sa il rumeno? No, non credo. Crisafulli, lei lo sa il rumeno? No, no. Assolutamente. Ah, ecco, no, era per essere tranquillo. Io se... astento italiano. E questo è preoccupante, però, senatore. Le offro un corso. Riconosce di parlare astento l'italiano. No, però. Parlo bene il siciliano, però. Vabbè, su questo. Ma c'è l'ennese, scusi, il nisseno, Il nisseno. No, l'ennese, che è una cosa diversa dal nisseno e dal catanese. Ah, perfetto. Facciamo uno scambio. Io vengo spesso in Sicilia e non ho imparato bene il siciliano. Crisafulli insegna a me il siciliano bene, io insegno a lui l'italiano. No, è che Crisafulli non l'abbiamo capita bene il senso di questa iniziativa. Non l'abbiamo capito profondamente. Ecco, ci perdoni, ma io non stento. No. Mi sfugge un pochino. No, Carlazzoli, tu l'hai capito, Alex? No, ma poi il problema è dove faranno poi questi ragazzi la loro pratica, insomma, il loro tirocinio, per esempio? Anche nelle strutture sanitarie che sono presenti qui in Sicilia, a Enna per esempio, all'ospedale di Enna. Basta fare un accordo tra l'università rumena e l'ospedale di Enna. Esatto. E poi faranno un mese l'anno lo stage formativo in Romania nella facoltà di medicina della Donarea di Giosa. Perfetto. Avranno modo di poter fare. Ecco, lei ha detto anche potranno fare lì studi, esperienze sui cadaveri, cosa che in Italia è vietato. Cosa che è vietata in Italia, sì. potrà fare, vabbè, ma sì, vabbè, però io continuo a capire, a non capire la profondità del senso di questa iniziativa. Ma non, cioè, c'è una profondità, c'è una opportunità che allarga l'opportunità formativa in Sicilia, grazie al fatto che dalla Romania vengono tolti una quota di posti della Romania e messi a disposizione degli studenti italiani o siciliani. Io credo che sarebbe un fatto da apprezzare. Tenga conto che lo scandalo da cui tutti gridano non è quello di avere un'università che viene qui e fa 60 laureati, ma il fatto che ci sono 3.000 ragazzi che ogni anno vanno a studiare in questi paesi. C'è un problema che riguarda l'accesso alla professione di medico, che non può essere ovviata chiudendo gli occhi o facendo finta che non siamo in Europa, perché oramai chiunque va là si laurea. Cioè, lei vuole fare in realtà un riconoscimento legale in tutta Europa. È chiaro, quindi Alex Corazzoli, che si sconvolgono gli assetti, gli equilibri, è una bugia clamorosa. Vuol fare una grande operazione di globalizzazione, la globalizzazione è in atto, quindi un'opportunità ai ragazzi che non hanno il coraggio, la forza, la voglia di andarsene fino in Romania, ce ne sono. Di studiare medicina, cioè lei non è che vuole, lei, se glielo dico brutalmente, non è che vuole aggirare il sistema delle quote chiuse. Ma no, perché il sistema è aggirato dal fatto che ci sono 3.000 che ogni anno si vanno a laureare all'estero. Ho capito, però è più faticoso dover fare la scelta di andare all'estero, e invece se uno ha il numero chiuso in Italia, ma lei gli offre l'opportunità di studiare in Italia, il rumeno aggira il sistema. Non aggiro. A me ricorda Alessandro. Dimmi. Ti ricordi? C'era il figlio di un ex senatore leghista, anzi di un senatore leghista, che era andato a fare l'università, se non ricordo male. Vabbè, certo, il Trota, boss. Il Trota, giusto. No, però no, attenzione, lì pare che abbia a Tirana, ma non è una cosa di vero. Pare che abbia proprio comprato la laurea, che pare. Certo, ma no, mi interessava una cosa che volevo capire con il senatore, ma quali sono gli standard delle università rumene? Sono alti come quelli, dico, dell'Italia, piuttosto che l'Italia, comunque degli standard buoni di università, cito Bologna. Guardi, le dico subito, le università rumene sono accreditate dall'Agenzia Europea. La Romania è in Europa, che ha gli standard particolari. Ha riconosciuto i titoli lasciati in Europa e in Romania come titoli validi a tutti gli effetti per l'Europa. No, non c'è una differenza, anzi le posso dire sinceramente che lì la parte medica, sanitaria, ha un'attenzione del tutto particolare. Credo che ci siano università di grandissimo valore, tant'è che parecchi italiani vanno lì, ma le dico di più, parecchi vanno lì a farsi per esempio gli impianti dentari. Noi non faremo odontoiatria perché non ci interessa. Che farete? Faremo medicina e chirurgia. Medicina e chirurgia, questa. Ma perché dice noi chi? Senatore? Io mi sento parte integrante di questo progetto, per cui noi E lei come è venuto in contatto con questi dell'università rumena? Guarda, le dico subito, io sono andato un anno tempo fa, oramai qualche anno fa, in Romania a trovare degli amici. Ho preso l'aereo a Tirana quando stavo per tornare in Italia. A Tirana, no? Tirana in Albania. Timisoara. Per tornare in Italia e mi sono trovato l'aereo stracarico di ragazzi italiani che mi pareva fossero lì per una gita universitaria. E invece erano studenti. E gli ho chiesto come mai se ci avete fatto la gita. Dice, no, noi siamo qui che studiamo medicina qui. E quindi lì ha partorito questa idea. Però io non ho capito perché lei in un'intervista a Repubblica, la prima intervista, ha detto, alla domanda, ma perché l'ha fatto? È stata una furbizia, l'ha detto, una furberia. Ho detto che io sono fantasioso. È fantasioso. Ecco, Corlazzoli, è fantasioso. Tu vuoi distruggere, l'ingegno. L'ingegno. L'ex senatore Vladimiro Crisafulli è fantasioso. Hai qualcosa contro l'ingegno, le doti della fantasia, della creatività. Alex, non so, tu dici sempre. No, ma io ho sbagliato tutto. Guardi, per essere sinceri, io ho applicato semplicemente i trattati europei. L'università di Maria de Jos, che è stata autorizzata dall'agenzia di valutazione rumena e dal governo rumeno, ha applicato Ma mi scusi, questa università è un'università privata, rumena o statale? No, pubblica, pubblica. È pubblica, è pubblica. Alex, che devo dire? Io non so, che... No, io volevo vedere le tesi poi di questi ragazzi, poi sono vabbè, ma però in Romania se è un'università pubblica, non è che in Romania non si studi, però no, Alex, per l'amor di Dio, non ho nulla contro, mi incuriosisce davvero, sai, anche perché poi davvero guarda, fantasia... faccia una cosa, mentre che c'è, se le faccio dare anche dei ragazzi che si lavoreranno quest'anno in Romania. Certamente, sono, cioè, no, ma sono 3.000. E che nei confronti dei quali il governo italiano, l'Italia intera, avrebbe il dovere di capire perché se ne vanno e quale risposta siamo disposti a dare a un problema di massa che la verità è che assistiamo con gli occhi chiusi a una vicenda, perché tanto è meglio non guardarla. E dire che ieri abbiamo parlato dell'importanza invece di aprirsi al mondo e dire giovani andate all'estero a fare esperienza. Invece il senatore Crisafulli vuole tenerli un po' qui ancorati alla loro terra, perché devono andare a passare il tempo a studiare in Romania. Ogni anno dalla Romania escono 10.000 laureati in medicina. Sì, però senatore, non ho capito, però ci sono tutti contro, i sindacati dei medici, i medici, no, le associazioni, il ministero. C'è solo un sindacato dei medici. Sì, uno. Il quale preferiscono giustamente non avere laureati, perché meno siamo, meglio stiamo. Ecco, parlano pro domo loro. Ma non è normale. Corrazzoli, qui non ti chiedo Mattia Costa cosa direbbe, perché forse gli sfuggirebbero i contorni della vicenda. Mattia Costa chiederebbe al senatore cosa ci guadagna lui, secondo me. Perché lei sempre ci guadagna qualcosa da questa vicenda, cioè in termini monetari. Assolutamente nulla. Niente, è un progetto che porta avanti, però assolutamente nulla, come se non ci ho guadagnato null'altro quando si è fatto l'università core assieme a tanti altri. Si è fatto, ora è governato. Sì, ma anche i rettori sono contrari. Cioè, lei dice, fanno come catanesi, quello di Catania e quello di Palermo sono contrari. È certo, perché dice fanno come il sindacato, è concorrenza. Ci sono ogni anno 40.000 ragazzi che vanno a studiare fuori dalla Sicilia. Ma no, ma lo capisco benissimo. Cioè, i rettori dovrebbero capire che cosa è successo, perché questi 40.000 invece meglio in 4 settimane, no, in 10 settimane studiano il rumeno. Si dice, meglio pochi che in famiglia. Ah, certo, in 10 settimane studiano le basi del rumeno e via. Alex Corlazzoli, io devo chiudere questa vicenda, non so cosa ci insegna, tu che tiri sempre un po' delle conclusioni dalle cose che raccontiamo. Leggevo ieri un'indagine dove i nuovi imprenditori lombardi, per esempio, il cognome più diffuso in provincia di Cremona è Singh. E a Milano è Hu, H-U. Certo. Così cinese. Come a Mantova pure Singh, e a Lodi i maggiori imprenditori dell'ultimo anno pure Singh. Ora a Enna avremo invece fra un po' un sacco di medici italo-rumeni, tra virgolette. Italiani che parlano il rumeno, d'altro canto, insomma, Sicilia ha avuto anche, che ne so, Piana degli Albanesi, no? Dove ancora. Un'operazione fantasiosa. Fantasiosa, ma lo riconosce lui stesso. Comunque, il ministero dice non è stata data alcuna autorizzazione. Vedremo come procede. Intanto io vi ringrazio e vi devo salutare. Alex Corlazzoli, voglio ricordare ancora, trovate in libreria Sai Maestro, che da grande voglio fare il premier. È scritto con il suo ex allievo Mattia Costa. Ringrazio Vladimiro Crisafulli, Partito Democratico. Voglio chiudere questa puntata raccontando quello che sta succedendo in Ungheria, ma cosa sta succedendo nel cuore dell'Europa. Lo faccio salutando Roberto Giardina, corrispondente a Berlino per il Quotidiano Nazionale. Roberto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Tu tra l'altro sei siciliano, se non sbaglio. Sì, certamente. Hai sentito che il senatore Crisafulli vuole portare l'università rumena di medicina a Enna, no? Così evita... Sì, ho sentito che noi siciliani siamo fantasiosi, questo sì, è vero. Esatto, in modo che così non vada a studiare all'estero. Ma in realtà l'audio che abbiamo sentito, e continua anche questa mattina, proviene dall'Ungheria, dove c'è una grossa pressione, perché ci sono moltissimi profughi, o forse sedicenti profughi, non si sa, ovviamente vanno accertati caso per caso, che vorrebbero arrivare in Germania. Urlano proprio Germania, Germania, imputano Angela Merkel colpevole, ma non solo loro, anche i governi di Austria e Ungheria, di voler bloccare tutto. Ma allora che state facendo lì in Germania? Ma in Germania naturalmente sono di fronte a un esodo, sono previsti almeno 800.000 profughi entro la fine dell'anno, forse saranno ancora di più. Ieri in due ore sono arrivati da Austria e Ungheria, dall'Austria 4.000 a Monaco di Baviera, sono stati accolti dalla popolazione con doni, cibo, vestiti, insomma c'è una mobilitazione popolare. Poi le autorità fanno quello che possono, perché trovare sistemazioni a 4.000 persone in 24 ore non è facile. Ma perché si è creata questa situazione, questo imbuto, se vogliamo, in Ungheria, e perché le accuse alla Germania, ad Angela Merkel, di volere Angela Merkel ha detto che naturalmente bisogna accogliere tutti quelli che arrivano, perché bisogna dargli subito assistenza, però poi bisogna accogliere per sempre, dare asilo soltanto a quelli che ne hanno diritto, quindi gli altri dovranno tornare indietro. C'è stato un malinteso, tutti hanno capito, la Merkel accoglie tutti, lei voleva accogliere subito senza ritardi burocratici i profughi siriani. Ho letto commenti in Italia che sono un po' veramente provinciali, dicendo la Merkel vuole solo quelli che lavorano bene. Questo è assurdo. Comunque, vuole i siriani perché quelli scappano dalla guerra, e quindi si sa che hanno certamente, rispetto ad altri, il diritto a essere considerati rifugiati di guerra, per esempio. Sì, poi politici. Appunto anche questa terminologia, noi in Italia diciamo migranti, emigra chi cerca lavoro, qui si fuggono da una situazione o di guerra o di miseria. No, ci sono i migranti economici, ma ci sono i migranti perché fuggono appunto da situazioni come queste. Però il governo ungherese, sappiamo che il governo ungherese non è certo tenero, tra l'altro, con i migranti. Il governo del premier Orban ha proprio incolpato Angela Merkel di questa situazione. Sì, dicendo che li ha attirati con questa dichiarazione, che è stata naturalmente fraintesa. Poi le parole forse della Merkel non sono state chiare, quindi lei non intendeva dire accolgo tutti. Naturalmente questo è stato un richiamo, tutti passano dall'Austria all'Ungheria e giungono in Germania. Io vorrei chiedere a Roberto Giardina però se il tema immigrazione è diventato, e purtroppo anche per i tanti morti, finalmente un tema europeo. Sai che in Italia spesso si dice l'Europa è cieca e anche un po' sorda su questo tema. Ora che ha coinvolto anche fisicamente tutti i governi anche del centro Europa, è sentito davvero come un problema di tutti? Sì, è sentito come un problema di tutti. Diciamo che questa immigrazione via terra era presente anche prima, l'anno scorso sono arrivati 200.000, non arrivano tutti dall'Italia o da Lampedusa, quindi naturalmente i naufragi fanno notizia, giustamente, sono avvenimenti tragici, poi sono morti soffocati 25-27 fuggiaschi in un camion sull'autostrada austriaca. Questo naturalmente ha avuto un colpo mediatico enorme anche in Germania, però diciamo che da parte della opinione pubblica e delle autorità il fenomeno di immigrazione era sempre presente, adesso è diventato ma anche drammatico. Perché tu ci hai detto anche le cifre, è bene ribadirle, e anche leggo sulle agenzie che tra lunedì e martedì 3.500 richiedenti asilo sono arrivati in Germania, in Baviera, quindi non è che la Germania non li accolga. Però dici in conclusione come si risolverà questa questione, perché lì a Budapest c'è un casino tremendo. Ma questo non lo sa nessuno veramente in Germania, perché aprire le frontiere anche a Budapest hanno bloccato la stazione, hanno gettato gas contro quelli che cercavano di salire sul treno, quindi la situazione è drammatica e per il momento sembra difficile da gestire. Sì, al momento non c'è una soluzione. Vedremo e speriamo che si trovi. Vi devo salutare e ci troviamo domani 6:30 puntuali.